probabilmente quindi... succederà così, perché adesso allora intanto benvenuti e bentornati in diretta dalle 6, volevo dire da Bologna con Tycoons and Dragons. Oggi da Bologna ci sono io, Andrea Giacomovecchi, Giulio Bosi, Stefano Gamberosi che ritorna, il master Enrico Catabriga e da Copenaghen abbiamo che ritorna, è saltata solo uno di cose. E da Copenaghen il magico da scusa da Frederiksberg, esatto, da Frederiksberg che non è Copenaghen, che non è Copenaghen, è, però è attorniata da Copenaghen, è assediata da Copenaghen, un piccolo villaggio gallico che resiste ancora. E Edoardo Saladini, e ci raggiungerà in trasmissione forse anche Francesco Arcidiacono. Non ci raggiungerà in trasmissione e probabilmente non lo farà più Luca Lazzarini, che però salutiamo, che se volete bere un coffee di qualità, che si è imbarcato in un'avventura più pericolosa delle nostre avventure, che è la gestione di un bar non suo, se volete, e soprattutto di chi è, cioè nel senso, perché fosse di qualcuno, però normale. Ma non sparliamo male, anzi venite, se siete di Bologna venite presto a visitare l'Inside Caffè, anche perché seguite l'odore di Giros, e volevo dire anche perché una consulenza di uno psicologo mentre vi gustate un cocktail il sabato sera, secondo me è un servizio, in realtà sì, assolutamente, no. Anche perché troverete il bar della consapevolezza, senza radio, senza TV, senza cellulari, solo il bacio tra l'orecchio e la parola, il bacio tra l'orecchio e la parola, citazione, e direi che non serve altro. Per fortuna anche probabilmente Gianluca non vedrà mai. Allora, ricordandovi che ci potete seguire sul canale social di Tycoons and Dragons. Fabio, che cazzo Fabio dice Fabio? Oh, l'ultima volta che sono andato mi ha chiamato Fabio, volevo dargli un pugno. Strano, e ricordatevi anche che potete seguire invece il nostro Edoardo Saladini nel suo podcast In Solitaria con altra gente, che viene silenziata nel momento opportuno. Fa il mio salotto. Anche perché lui lo sa che mi chiamo Giulio. Potresti metterlo nella descrizione. E va bene. Però torniamo a noi, parliamo di cose serie. Oggi giochiamo alla maledizione di Katta. Questo è il 18° episodio. Yes, siamo maggiorenni. Siamo maggiorenni, quindi congratulazioni Katta per averci portato fin qua. Sfortunatamente non possiamo dire lo stesso del livello che abbiamo raggiunto. Ma siamo ancora al quinto livello. Però ci puoi anche far salire adesso. E tutto questo oppure, perché abbiamo scoperto perché non siamo andati alla vigna. Esatto. Perché se fossimo andati alla vigna, si ha bloccato, saremmo, cioè, papam papam di livelli proprio. Si è bloccato tutto, sì, si è bloccato tutto. Così. Invece che vino era tipo delle pozioni level. Comunque un sandbox aperto non funziona così, cioè tu sali di livello anche ammazzando i cinghiali per strada, cioè vabbè. Effettivamente. Allora, ci abbiamo ucciso i cavalli. Poi ho capito che era inutile, ho smesso. In controtendenza con i cavalli, hai provato altre cose. Hai provato altre cose. Questo dannoso, fosse stato inutile avrei continuato. Esatto, meglio. In controtendenza con le ultime stagioni di Game of Thrones, che hanno accorpato personaggi mettendoli una sopra gli altri, ammassati nelle varie location, noi invece ci siamo divisi, praticamente ogni personaggio ne occupa un paio adesso. Siamo delocalizzati. Ma ognuno ha scelto. Quindi io direi che sigla, maestro. Ah cazzo, la sigla non sono preparato. Hai ragione, però adesso ho fatto uscire l'album. Potrà cantarla il maestro. È acceso o spento adesso? No, è acceso, ma io non ero pronto. Quindi prova. No, si è commesso invece, grande. Sarà già andato a letto. Poi direi Giulio, tu fai il riassunto, o Salla fate il riassunto della vostra parte. Adesso, e io faccio subito, della mia. Con la bocca fina. No, fa Salla che ha fatto lui il mangheggio. Sì, ma Salla non c'è. Vabbè, quindi lo fai prima tu. Faccio il riassunto della vostra parte, ci sta però fare il riassunto della tua. Incrociato, mi piace. Sei riassunto. Quell'idiota, ha deciso. Cioè, va bene, come ti pare. Allora, Katta è sempre più spirituale. È la parte più bella. I hurt myself today. Esatto, quindi dovete immaginarvi io che vado tipo sul mio alce che ho evocato. Alce non morto. Il mio alce che si chiama Adelov, in onore di Ade. È vero, il fatto che sia un non morto, cioè nessuno ha detto niente. Quindi immaginate con me sul cavallo dell'alce e dietro di me vabbè, ma prima è la mia anima. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Però effettivamente non è ancora entrato in un luogo abitato. No, però è suoi compagni di viaggio. Vabbè, più o meno lo sanno. Canta è la mia anima. L'anima è lì nel cimitero che è condannata a ripercorrere il percorso che lo porta al castello. Tra le bambole dei bambini morti. E quindi dovete immaginarmi io che vado fuori dalla fortezza di Kresken a cavallo di lance, e dietro di me ci sono Irina a cavallo e Casimir a cavallo e dietro tienici pietro dietro che pompa Mr. Monkey. No, è un scudiero su un mulo. Quanto è che ha sbattuto la testa? E ci siamo diretti verso la torre. Praticamente c'era, non si ricordi, mentre venivamo verso Kresk da Vallaki. Posso? Scusa che è sotto il microfono, non vorrei che copra te. Abbiamo passato questa torre. Sì. In teoria lì mi ero detto di vedermi con Rictavio. Che era questo specie di bardo, in teoria, che avevamo incontrato quello che aveva la tigre a Vallaki. Sì, in genocina. Esatto. Che poi esatto era razzista con i vistani. Quindi era una bella persona. A me piace, però... Siamo arrivati alla torre. Perché cioè, magari sei Salvini, sei d'accordo. Ok, sali principi. Tu la puntata prima c'eri, no? Che sì. Io mi ero messo capisco d'accordo. Capisco che adesso la Liga sia al 34%, però. Che sarei non andato lo a Vallaki per prendere il... la strada. Ok, vabbè, io mi ero sono messo le elezioni. Con il Borgomastro per... di Vallaki, scusa, di Kresk. Per andare a Vallaki a prendere sto abito, almeno così. No, in realtà non te l'ho scritto un po' perché sono stato incasinato. E però avevo detto un po' perché comunque non hai detto che la casa era nera, cioè in questa sessione non dovrebbe essere influente. Poi se fosse venuti a cercarmi che andavo dalla vigna invece. No, vabbè, no. Allora, siamo andati dalla torre e abbiamo scoperto che si tratta di fatto di una torre che era di un mago potente, Kazan, che prima si era opposto a Strahd e poi come tutti si era unito a Strahd, perché era diventato un lich. Fatto sta che comunque ci sono ancora dei residui magici, però siamo riusciti a entrare. Grazie a me. Che mi sono messo a fare questo della porta e poi della questo porta. Grazie a Zumba. E questo e poi quest'altro. E dentro praticamente abbiamo scoperto che c'è un campo. Dovevo fare le varie cose, solo che se scagliavo il verso e tipo esplodeva la torre e io con lei. Devo fare la casa. Per quanto riguarda. Siamo entrati, abbiamo scoperto che dentro c'è un campo antimagia, il che mi ha fatto venire l'idea di lasciare Irina lì. Lì ho incontrato Rictavio, ma ho scoperto che Rictavio altri non è che il cacciatore. Quindi il cacciatore di vampiri. Il cacciatore. Rudolf van Richten. Van Richtentrop. Molotov van Richtentrop. Van Helsing. E abbiamo fatto appunto un patto che ci permetterà di spartirci l'Europa. E... Escalation. Ma e, lui praticamente... Hai fatto un patto? Tutto molto sbarrito. Si parla dalla Polonia. Patto Bardistran Varricken. È un patto Bardistran Varricken. È una lingua, però va bene. Che praticamente. Allora, Vistani è un patto paladino. Ci siamo buono. Stati d'accordo che i Vistani vanno eliminati. Però pallino buono, realtà, complessato, tranne una Vistana che è Smeralda, che lui vuole recuperare, perché lui ha detto che lei vorrebbe uccidere. La sa bombava quando era piccola. Ma lui ce l'ha davvero coi Vistani o è una lui gang? Ce l'ha coi Vistani. Ma lei è una Vistana? Lei è una Vistana perché mi ha raccontato la storia. Se la bombava da piccola. Mi ha raccontato la storia del perché odia i Vistani. Ah, perché se li bombava. Ma non me la ricordo. Allora, aspetta. I Vistani rapirono suo figlio. Lo diedero a un bambino. Sembra come l'interrogazione di scuola. Che lo rese una progenie. Lui uccise la progenie. Quindi uccise suo figlio. Ma poi voleva uccidere tutti i Vistani, ma non li uccise. Quindi gli è rimasto quella colina. Ah, ok. L'angolino. È chiaro, esatto, che lui non è che odia i Vistani, ma li odia a livello genocidio. Però non li ha genocidiati, cosa? No, quella volta lì. Poi sei rimasto un po' male. Però hai detto, ma perché non ho fatto che era in questa tribù, e quindi ha iniziato il suo gesto di esatto, di aver risparmiato i Vistani nonostante fossero dei pezzi di merda, ed è andato con lui, è diventata la sua sarà bomba. Lui non la voleva, lui non la voleva, ma la fine gliel'ha dato. Quando è diventato maggiorenne ha detto no, che schifo. La gamba gliela staccata lui così nell'atto sessuale. La gamba, sì. E sì. A 18 anni quando ha detto no, sei troppo grande, mi fai schifo. Comunque fatto sta che lui, una volta che gli ho detto che lei vuole appunto prendere di sorpresa strada, ha detto no, no, dobbiamo fermarla perché non è il momento, eccetera, eccetera. E quindi però io ho detto che la cosa secondo me conviene è lasciare qua Irina, perché in un campo antimagia forse non strada non riuscirà a percepirla, e questo farà sì anche che non riuscirà a seguirci in modo così pedissequo. Poi è ovvio che c'ha tutte le sue spie, però insomma saremo un po' più chino, più protetti. Però il fatto è che lui andrà all'abbazia, quello non cambia. Strad? Ah sì, ma noi infatti adesso in realtà... No, perché tu parlavi di Esmeralda, Esmeralda è dove sarà Strad fra un paio sì, di giorni. Sì, infatti noi vogliamo recuperare lei, ma per prima cosa vogliamo andare alla vigna perché Katta ci ha obbligato a farlo. Beh, è dalla prima sessione, sì, fatto esatto. Che è così. Quindi... Cioè, anche tipo, guarda, non ha molto senso andare alla vigna, però ci sono poteri contro i quali... Perché così, teoricamente, perché questo è l'escamotage trovato dal master. Nella sessione 1 che sapete di questa vigna. Vabbè, noi non ce ne frega un cazzo della vigna. Oh, cioè, il fatto che l'equilibrio di tutta la campagna trovare dipenda dall'esserci un esercitino è un po' strano. Ok, in realtà, no, in realtà... Cioè, che ci sia la rivoluzione, che sti qua impazziscono perché non c'è il vino, chi se ne frega? In realtà, Katta si è dovuto inventare una storia per far sì che io andassi lì, volessi andare lì. Cioè una storia che più o meno avesse un qualche modo, un senso per cui uno debba andare a una vigna nel momento in cui il suo problema è difendersi da un vampiro sanguinario di migliaia di anni. No, praticamente a quanto pare la vigna era gestita da questa organizzazione che si oppone a Strad. Vedi, voi non ci abbiamo sgazzato, mentre era successo, e invece ci ha creduto. Tutto torna perfettamente, sono un genio. E Van Richter praticamente, lui in realtà stava cercando, ce lo fa fare per lui. Era andato a Vallacchi perché cercava qualcuno di questa organizzazione, ma da quel che ho capito non l'ha trovato. Lui il cacciatore, no, lui sì. Aveva addocchiato Lost. Perché pensava, non abbiamo fatto un ottimo lavoro. Pensa che sia parte dell'organizzazione. Sì. Organizzazione che si chiama. Abbiamo studiato. Alcolisti anonimi. Guardiani delle piume. Guardiani delle piume. Guardiani quindi questi piume. Hanno in mano. È la mafia del vino. Sì. Esattamente. Esattamente. Allora abbiamo raccolto anche Robert Baratheon e siamo partiti. No, vino! E niente. E quindi mi ha convinto di andare a vedere lì un po' cosa è successo, perché a quanto pare il fatto che non arrivi più il vino probabilmente vuol dire che Strad l'ha bloccato in qualche esatto. modo. Esatto. Però non è però a questo punto non è tipo una trappola. Ovviamente il rischio c'è, però potremmo magari trovare degli alleati. Ma Irina, e se riusciamo a recuperare del vino potremmo avere un pass per quindi entrare. Quindi Irina è sola. Da sola chiusa. Quindi neanche a lui gliene frega più un cazzo di Irina. Nessuno è mai entrato. Cioè. Che personaggio? Spera anche si suicida. In teoria dovrebbe essere. Senza cibo, senza acqua, però vabbè, c'era una camera da paura lì. Sì. E poi c'è la e poi c'è la chiusura ermetica magica. C'è una finestra che si può buttare dall'alto. Speriamo che sì. lo faccia. Cioè, ti ricordo che appunto c'è la chiusura magica al piano terra e poi c'è l'impalcatura che pericolante, però molto pericolante. Sì, sì, è vero. Tutte cose che vanno valutate. Cioè, se c'è una scossa di terremoto, andare, ci va. Che effettivamente io avrei potuto abbattere. Se Strad ci vuole andare, ci va. Diciamo che se scopre che è lì. Se qualcuno lo invita, ci può entrare. Se lui c'è già stato dentro, in realtà no. Però, no, ma scusa, se erano migliori amici lui e Kazam. Cioè, c'è già stato. E alla Kazam. Cioè, però, se uno è già stato in un posto, non deve essere rinvitato, anche se non è più della stessa persona il posto. Ok. Poi c'è chi dice che lui, essendo il padrone della terra, può sentare dove cazzo di fare. Però non lo sapete. Dante ha detto che così siamo in tre a sapere dove è Irina, uno dei quali non sa chi è Irina. Ecco, questo è di buono, effettivamente. Sì, se qualcuno di voi volesse. Tipo noi non lo sappiamo, anche se ci torturano possiamo dirglielo, cose del genere. No, non è più voi che torturate me. Però sì. ci dobbiamo ammazzare l'altra volta. Nessuno di noi lo vuole ammazzare. Non ci vuole. Forse sei di lui. Non hai detto di volervi ammazzare. Ho detto di volervi evitare. No, no. Hai cacciato. Ho iniziato a dire. Dovremmo ucciderli tutti. No, non l'ho mai detto. L'indifferenza è la peggior arma. Non l'ho mai detto. Sarebbe meglio proprio non incrociarli. E se li incrociamo. Cioè, non ci fidiamo. Ho detto che di te, Coso, Salla e di. Di te, Reis e Bayern, che vabbè, ormai abbiamo perso, non mi fido molto perché siete andati a Val, cioè ci avete abbandonato, siete tornati a Vallacchi dove era il suo. Vabbè, non torniamo qua perché sennò si. E quindi non mi fido di voi altri, non so, però. Farei degli striscioni con gli europei? Non so, però, ovviamente. Quando vedo cinema, aspetta, se fosse io ho detto i miei ex compagni vistani. No, mi sono trasformati in vistani da quando è successo. Potrebbero sembrare morsi dai vistani. Potrebbero sembrare non vistani all'apparenza, ma dentro lo sono. Ragazzi, ma se sostituiamo la parola vistani con. Vabbè, non lo dico perché. Però c'è Zuckerberg ci chiede. Perché gli fa, ma sono cosa? Armeni? Comunque no, allora il tizio è stato triggerato e ho detto che non so se si può fidare di voi, quindi vedremo. Ma sì, è il tuo pensiero, no, detto, non so se si può fidare di voi, rivolto a te e ad Arci. Ah, noi ho iniziato a dire che siamo nel mezzo. No, ho detto che è molto sospetto e temo che siate passati dalla parte di strada. Ok, altro punto di vista. E però aspetta, poi dopo siamo ripartiti e niente, a un certo punto adesso finirai tu per dire. Esatto. Siete arrivati in incrocio un cavaliere a schiere. Esatto. E schiere tu? No, Salla fa, perché Salla ha fatto in Magica Bula l'ultima volta. Il protagonista. Allora, siamo stati in una cena noiosissima con l'abate. E lì c'eravamo tutti. No, cioè sì, c'eri presente. In questa parte. Giulio e l'abate hanno parlato di cose strane che non mi interessavano. Cioè, siete ancora più amici? Esatto. Viva strana. Dopodiché io ho detto, senti, ma muoviamoci, andiamo a vedere dove è finita. Ah no, perché abbiamo percepito che le bestie di Arci sono morte. Quindi siamo scesi in città a vedere. Cosa che c'è città. Domanda, io ero rimasto che cercavate Vez, quindi cercavamo Vez. Stavamo cercando Vez. No, perché mi dite che siete a cena, non vedo questo allarmarsi nel cercare Vez. No, vabbè, mentre aspettavamo, no, vabbè, cercavamo. Vabbè, non lo vedo, non ci avevo mai cercato dove ero scattato. Sì, allora. Mi ricordo che eravate andati Abbiamo continuato a cercarlo, poi vabbè, a un certo punto aspettando, io mi sono fatto la mia preghiera con la base. No, perché sembrava un. Vabbè, raga, non lo vedo, mangiavo. Perché in realtà Giulio è riuscito a capire da dove ero fuggito, ma non ha capito come sarei potuto fuggire da lì. Perché non ha trovato la grata. Sono trovato al canale di Scolo, ma non ho capito detto, quale grata si l'unico toglie. Modo è uscire da qua, però è come cazzo ha fatto perché non si apre. Quindi è l'incantesimo che potrebbe essere. Noi siamo usciti quando Arci ha percepito che le bestie erano morte. Quando Arci ha percepito che non c'era Exp lì. Le bestie erano morte. Allora, causato le bestie per andare a cercare. Ah, sono morte. E mentre lui stava parlando col borgomastro, le guardie hanno trovato queste bestie e le hanno uccise. Ah, noi siamo arrivati che c'era un ragazzotto che molestava una bestia di Arci. Quasi come fossero vista. Esatto. E il ragazzotto era. Voi effettivamente era la prima volta che lo avevate visto. Era il figlio del borgomastro che è stato resuscitato la notte prima dall'abate in persona. Per diciamo meritarsi la loro brutto devozione. E convincerli ad andargli a prendere sto cazzo di abito da sposa. Basta! non vuole prendere neanche il tuo fidato PNG, quindi che cazzo vuoi? Sono i problemi di Barovia. I problemi di Barovia. Il vino e gli abiti da sposa. Cioè, ci sono delle streghe che fanno dei dolcetti con le ossa dei bambini. Però c'è quello va bene. C'è solo un abito da sposa in tutto il quello. Ubi mannari che saltano fuori. Cioè, voi siete tornati a Vallachi e avete preso quel cazzo di medaglione invece di prendere l'abito. Scusa, ma se noi cuciamo un abito da sposa. Ma in teoria io l'ho cuciata quella casa, non credo che quella sia il secondo miglior abito che sia stato mai fatto. Scegliere il medaglione, no, l'abito da sposa oppure la scatola misteriosa. È chiaro che vuole non più l'abito da sposa nella scatola misteriosa. Per lui è la sua occasione per fare innamorare Strahd e spezzare la malattia. Che vuole che tutto sia perfetto. Sentiamo cosa da dirci. Sì, scusa, Franz Rickensen di Fredenberg. La morale è che il Cinno aveva visto Irina parlare col Borgomasto, mi pare. Sì. Al che io mi sono trasformato in Irina. Sì, è vero. E ho detto al Borgomastro, cioè ho bussato alla porta del Borgomastro e gli ho detto che ci avevano attaccati Irina e il tizio, che non so come si chiama, e ci avevano attaccati lungo la strada e avevamo bisogno di un aiuto, che gli ho chiesto se poteva mandare le sue truppe ad aiutare. Cazzo, è dislessica, quindi veramente i esatto. E quindi c'è dubbio. Tipo il Borgomastro e al che io e Giulio ci siamo guardati decisi se conquistare la città se infatti io a quel punto ho detto a questo punto per la gloria scusa, riconquistare la città quindi conquistare. Ah no, questa, ok, pensavo fosse tornati là. No, sarebbe qua. Figo. Scusa. E praticamente ma l'idea era quella di non seguire le tracce di Venzi e Nina, che magari andavano via nascondendo le tracce, ma seguire i 200 cavalieri che sono partiti a seguire. Erano in quattro, ma vabbè. Vabbè, e così abbiamo fatto. E li abbiamo inseguiti. Solo quindi mentre sì. E mentre li inseguivamo, sono tornati lì. No, abbiamo sentito dei rumori, ci siamo nascosti a questo incrocio dove è comparso, non sappiamo che fine abbiamo fatto, dove è comparso sto cavaliere scheletro e dopo un po' abbiamo visto arrivare anche lui. In realtà e mentre noi ci siamo nascosti e abbiamo visto che di fianco a noi nascosti ci sono degli arbusti. Una perception molto alta. Degli arbusti viventi. Sala, non ti muovere, non c'è Giulio. Un albero dietro di noi. Negli arbusti. Ci sono degli arbusti. Degli arbusti che non so, mi ricordo come no, si quindi, chiamano. Cioè, sì, Prato Erba. Light. Che sono. Cioè, invece si chiamano in italiano, si chiamano arbusto maligno. Fai tipo degli ant molto più piccoli. Quindi sono arrivati rinforzi. Possiamo uccidere Beth grazie allo scheletro. Prima di andare via io ho detto a... È vero, Sala, ora giochiamo tutti insieme, non puoi li dividere. Ah, figo. Ma nessuno vuole uccidere. Questi sono quelli piccoli. Prima di andare via dalla città io ho detto all'abate che Smeralda è una cacciatrice di vampiri, quindi se magari arriva a Strahd tra giorni sarebbe contentissimo. Stai anche... però ha ragione, Bezzi, cazzo, hai anche detto oh regà, occhio che Strahd può essere ucciso, aiutato. Mi lo saluti. Se Strahd si incazza e poi distrugge la città e rovina le cose all'abate, cioè, oh, ma che cazzo te ne frega a te? E poi ho giurato fedeltà a Strahd, che cazzo vuoi? E che potrebbe succedere di peggio? Che Strahd mi cocco il mio padrone. È vero, bravo Giulio. Ma che cazzo ci crede a questa cosa? Dai. Sì, sì, voglio che muoia contro l'abate, non contro Strahd. Ok. E quindi l'abate va detto e poi basta, è una vistana quindi ah beh giusto, gli ha detto ok ci penso io, esatto, e a te mentre loro andavano ti hanno detto vai a tenere d'occhio Smeralda e tu sei andato. Sciocco. Quindi vi siete separati. C'è solo una parola che devi pronunciare. Tirate iniziativa. Quando Kata ci ha detto ci sono, vedete degli arbusti di fianco a voi, gli arbusti quelli, io ho detto ok, guardo quello più vicino e faccio shhh. Fatto così. Sì. Ti Giulio. Sì. Non so. Iniziativa. Sì, andiamo. Ah, ok. Un'ultima cosa. Venti! Comunque, oggi nel caso ho. Dado. Stiamo con anche l'iniziativa. Perché potrebbe funzionare. Perché sì. 13. Pietro. 13? Pietro! Ecco, no, più due in iniziativa. Potevo arrivato. Ma che è l'ultimo da darsi. Posso togliermi momentaneamente in più due iniziative. So per aver fatto 11. 11. 13 meno 2. Tu non ci sei? Salla. Ciao. Puoi dirlo anche, credo. Vabbè, mettici dei modificatori. Vabbè, sarà tipo 0. Ah, devo tirare anche quelli della mia compagnia. Quelli li tiro io. Mia compagnia siamo qua. Vabbè, scusa, può tirare qualcuno, può tirare Sceo e Arci. La polizia o Boh, forse il tizio che cerca l'accendino per accendere una candela. Per accendere una candela. Vabbè, una cazzo di candela in mano. Raga, ma quanto sarà bello adesso che diciamo Arci che c'è un combattimento. E lui non c'è. In realtà quello che ho visto qua usano tutte le candele, cioè tipo questo candela. Qua in casa ne ha lasciate 500. Perché tu potresti... Per cosa? Per cosa li usano le candele? L'odore più CO2. Non so, cioè, tu non hai idea. Ho un cassetto pieno di candele. Forse avete continui blackout, non lo so. Per ora no. No, magari per il periodo. Magari per il periodo in cui avete meno luce durante il giorno per mantenere la luce accesa H24. Grande Arci! La candela, ma grandissima. Un costume? C'è un canotto su quello. Salla, cioè, ci manca solo la tavola da serving. E Arci ti abbiamo aspettato per il combattimento. Esatto, anche se tu non ci sei. Va bene. Sì, stanno tirando iniziativa. Io e te stiamo a guardare. Qual è il combattimento? Tu contro di loro? No. non lo sappiamo. Ora sei già vestito. Cioè, dipende un po' da loro. Con il sudario da. Tanto per il sepolcro. Hai ragione. Vai, catafremo. Oddio. Che ha detto? Minchia, i miei compagni non salgono di livello. Però 20 di iniziativa. No, sai cosa? Partirà secondo, terzo. Esatto. Però dietro i miei compagni. Quando che sta fightando? Ora ho una compagnia. No, ci sono. Tu c'eri fino alla fine l'altra volta. No, mancava anche lui. Ah, mancava anche lui. Ti dobbiamo rifare adesso. Allora, dove sei rimasto? Beh, ascoltati il podcast. Oh. No, aspetta. Vabbè, dato che voi giocate, glielo faccio io, lo so. Vi volevo dare i PNG da controllare. Se volevo dai PNG. Chi vuole? Ah, dietro c'è viene chi vuole rictare. Adesso posso appoggiare il pettino sul pettino. Loro devono combattere. No, non farli usare da loro. Ah no, ma io voglio usare nemici. Ah, va bene. Ok, come vuoi. Però che Rictarion è fortissimo. Ma io voglio uccidere i nemici di chi? No, ho capito, non fa, cioè nel senso, ora vado a Coppa Est, non è che me la fai lui... sputtanare da si coglione. Lui, dopo aver parlato, lui, se ti ricordi, due sessioni fa c'eri, ha parlato col Borgomaster per andare a prendere il vestito. Poi è andato alla Lui era fuggito e noi stavamo parlando con Giulio Sali. Lui è fuggito, è andato al Borgomastro è andato e gli ha promesso che sarebbe andato a prendere il vestito. Sono arrivato a una torre dove c'è il cacciatore esatto. di vampiri. No, io volevi allearti con lui per ammazzare Giulio Salla. Esatto, no. Esatto, no, sì, esatto. No. Precisamente. In realtà adesso stiamo andando alla vigna, ma vabbè, adesso se ci incontriamo poi glielo spiego. Anche diciamo, lungo la strada, lui, Irina, l'elfo e uno scudiero. Sì, Pietro. Tenici! Fatto. E hanno visto che c'è un cavaliere scheletrico. Loro che stavano seguendo le guardie, vivo. Che stavano distanti. Sì. Sì, non morto. Cavaliere distanti. Scheletro sì. Non morto. E loro stavano inseguendo delle guardie che stavano andando a cercare loro. Ah, io ho lasciato Irina e hanno, e hanno visto. Lui ha lasciato Irina alla torre. La torre in teoria delle protezioni. No, da sola, ma in teoria delle protezioni di macchina. Loro che stavano seguendo delle guardie che stavano seguendo loro hanno visto la situazione, cioè loro davanti a questo cavaliere si sono. No, noi siamo arrivati all'incrocio, abbiamo sentito dei rumori, siamo nascosti, è comparso questo cavaliere. Sì, un po'. No, no, meta, riassunto. Ci sono nascosti. Ti dico. Scusa, a me sto cattivo qua? C'ho più di uno, ovviamente. Sono 30 almeno. Vabbè, dai Kevin a Sceo. No, dammi i buoni allora, se mi devi sta merda, scusami, cioè. Va bene, chi vuole il maghetto, chi vuole il cacciatore di vampiri? Dici quanti punti di ferita con la merda, giusto per questa. No, beh. Adesso a me, è un mio amico. Ma dai, Mago come lo sanno usare? Ah, Salva, c'è. Cioè, se non sono in 40 non potete perdere. Non lo voglio sapere io, lo sapevo meglio. Tu cosa sei? Il mage. Sì, ma chi è lui? Kevin. Ottimo. Casimir. Ah, ok. Allora. Ma hai visto cosa ho fatto? Sì, appunto, cioè sto nascosto e l'ignoro e basta. Casimir, l'iniziativa. Anche io chi sto? Chi sono di questi qua? Mage. Più alta di me? No, devi tirarlo. Che bello giocare contro me. Ma in teoria adesso giocare con me, pezzo di merda. Ah, scusa. Plot twist. Cazzo, si è abbastanza. Iniziativa. Non ho fatto 20, automaticamente. Bombe! No. 16. 16 più. E 2. 17. La destrezza più 1, quindi 18. Anche 18. Mm-hmm. Vai, vinco. Minchia, siamo molto forti. È il momento. Non lo vedo, sapete che non ci siamo. Anche tu 18. Okay. Però raga, se mi amma, se voi, se mi, se tipo tu mi dai uno schiaffo, io mi suicido, tu prendi l'esp. Sì, ma tanto qua non funziona. Che... Ah, è vero. Salla, prenditi una inspiration per il piano di Rina della, dell'ultima volta. Grande. Sono tanto adosce. Potrebbe, dai, potrebbe. Io per le citazioni bibliche. Dai, dopo ci pensiamo. Merda, faccio una strage. Aspettate, io dovrei colpire gli avversari, giusto? Sì, sì. Ok. Ciao, ciao, ciao, eh. Allora. Sì, non mi far vedere che è un mago di decimo livello. No, no, hai letto. Ma era per te, non vedi? Scemo. Cioè, solo una riga, ci stavo facendo leggere. È solo one shot, quanto vita hai te? Figo. A lui lo puoi vedere, a me no? Ma siamo insieme! Te lo facciamo vedere. One shot, ti facciamo vedere cosa gli facciamo vedere. Dai. Non morti, allora, in corpo a corpo, ho 36 danni in più. Vardistran. Voi state ovviamente cavalchi in testa col tuo alce scheletrico. Adelo. Adelo. Ah, ma è uno l'avversario, non un cavaliere scheletro. Allora, la prima cosa che, vede, che vedono loro, camminando sulla strada, arrivano all'incrocio dove c'è il bivio tra il sentiero che va nel bosco, sì, e la strada lunga. Sì. E... intorno c'è la nebbia. Dalla nebbia davanti a te spunta questo cavaliere su un cavallo scheletrico che tiene una lanterna spenta. Sì. E... mi abbaglia! Brava cosa. Kane, cosa vuol dire in inglese? Sword cane. È il bastone che si apre, cioè spada. Ah, ascolta, ma mi sembra un... aggressivo. Ti sembra un non morto. No, è scherzo. Anzi, una spada d'oro. Io sono venuto tra io i non morti. Ma da dove sono gli amici? No, non è che gli faccia molto. La mia spada d'oro. Cioè, quelle armi che ho? Sì. Oh, sì. Metz? No, sì, la tagua. Hai un po' di coca zero che devo... Sì, te la do. Proprio in attacco. Avresti diverse cose, tipo lo scacciare, fai più danni con lo smite. Non lo scacciare io. No, non lo scacciare, però fa molti più danni con lo smite. Fa un D8 in più. Sir Barris, done! E vabbè, faccio il... Salve. Prendi 9 da 20. Faccio l'Hunter's Mark. E che non mi ricordo proprio più, mi dava il un design più idea. Va bene. E lo attacco. Vai. Dico, non ci fermerai ora. Ti stai focussando il cavaliere? Sì. Oh, lancio una palla di fuoco sul cavaliere. Scusate, stavo leggendo. 12. Lui è stato il primo a agire. Sì. Vai. Scusate, perché stavo leggendo. Il cavaliere si è mosso, ha fatto qualcosa. Niente. Esatto. Praticamente è come stanno venendo cavalcando uno contro l'altro. Anche l'altro può toccare mentre carichiamo. Ma è palesemente ostile. Sì, per comodità nel tuo corpo. Ma è toccato famiglia. Il fatto che lo carichi non mi dà nessun problema. E il 12 ho fatto. Ma al di là del fatto che è un non morto, vediamo che è ostile. Cioè, una domanda un po' scapida, però. Posso fare il secondo? È un cacciatore di vampiri, vedi un non morto. E tu ti rimani, ah, ma sarà ostile. Vaffanculo. Magari lo manda a strada per parlare. Anche l'altro. Si attacca anche l'altro. Che fa la carica. Fa tutto, anche il suo altro. Guarda un attimo la punteggio di intelligenza che ha il tuo personaggio. E in realtà sei. Quindi per interpretarlo bene devi stare zitto. Hai ragione. Però sono anche carismatico. Dopo che ha fatto lui preparazione di voi. Stai zitto. Oh, ha fatto 20. Ma quanto bello lo show che fai. E poi però è una colpa 9 in forza. Aspetta. Dopo di lui tocca a voi, preparatevi. Sono pronto. Ah, non lo so, sono quelli incantesimi che non so neanche cosa siano. Ma tu, Ovezzi, l'avevo detto quello spara una palla di fuoco su quel cavaliere. Se c'è un ricordo a corpo, è colpa mia. Allora, quanto sono amici? Questo mago qua, quanto amico di loro? Fa 13 danni. Okay. L'elfo con le orecchie tagliate. e quello che voi avete deriso e devi fare un tiro in teoria quello che lui ha cercato di uccidere di appena frantumato in una miriade di schegge posto. Cazzo fa quella Perché si carica fa più 2 di 6 merda quindi è già morto sì, c'è il cavallo ah, è no in realtà erano 16 sai. Vabbè quella roba di 16 quella roba anche il cavallo è morto. Scusate, è morto con 16 danni lo scheletro non è che abbia tanti HP per me il vero il niente proseguiamo ti aspettavi che gli facesse meno di 16 danni il vero cavallo. Nemico in realtà è il cavallo no lui sì non l'alce questo io l'ho mancato due volte ma l'alce l'ha eliminato raga non avete capito il vero nemico è il cavallo esatto vai andate uno di voi due fai te mi metto a sparare un cavallo scheletro ah perché c'è ancora il cavallo scheletro vabbè provo a caricarlo colpiamo l'alce tanto sarà una pippa 18 colpito ok quindi 1 di 6 più 1 più 3 di 6 perché quando attacco corpo a corpo è levo esatto. Quindi in totale 4 di 6 vezz 6 di 6 beh 1 2 3 1 bel tiro 7 con 4 di 6 ho fatto 7 ok la forza ho meno uno la forza non so come la destrezza destrezza più uno comunque c'è ma che scritto uno, cioè. Scusa c'era più uno quindi ben 8 danni certo ma aspetta ci faccio vedere come un mago non di corpo a corpo ancora viva certo il cacciatore che fa 8 danni con 4 di 6 fireball devi fare tu se Scio gioca il cacciatore possiamo affrontare ma ho tirato 4 di 6 ho fatto 8 danni 7 più 1 ti sono piaciuto? Perché lo devi fare? Devi mi sa che ha fatto 16 e quindi non l'ha ucciso no beh hanno fatto 8 danni dai fireball con 40 danni fai se colpisci un di 10 di fuoco oh brutto aspetta tu sei di livello madonna c'è scritto di nono ho un più 4 allora faccio 17 un cazzo di mago di nono livello Kevin sì. 17 siamo solo noi sfigati ma non mi somma automaticamente i danni adesso che l'altro no 17 al colpire ho fatto io quindi l'ho colpito no essendo tu di nono fai ho un più 4 di coso un più 3 di statistica fai 2 di 10 ma non c'è scritto ah 2 di 10 brutto ma non sono di 10 tu col tuo country tu fai 2 dadi essendo di quinto livello credo non l'ho fatto da un po' il mio cavolo. 12 danni. Vedi che non c'è niente di dare. Le ossa si anneriscono dal fuoco che gli viene lanciato contro, ma è ancora in piedi. Bene. Cioè, qui è vero il cavallo il nemico. Sì. detto. Effettivamente un cavallo ci mette più tempo a tirarlo giù di un marino. Capito, ma sono dei ventesimo livello, ho capito che era prima di loro. No? Beh, si è pagato un euro questa? Ma sono di nonno. Da pagare 3 euro sta cosa praticamente sì perché beh, io prendo 66 non è tanto, no, euro 1 però ci sono due asterischi forse euro 1 che non può girare il giovedì sì, dovrebbe essere il prezzo consigliato al pubblico dove sono gli asterischi ma non lo so l'avevo è un asterisco che non è riportato avevo preso una cassettina da 6 di questo forse perché non vendibile singolarmente ok allora voi due lo scrivono infatti è strano non ci sono gli asterischi che siete nel cespuglio forse mi fa vedere che è euro 1 quindi è ancora vivo questo cavallo sì il cavallo è ancora in piedi è messo molto male ma è ancora in piedi in chi sta? Sta all'arbusto che appunto vi nascondete dove era seduto anche lui tu gli fai shh e quindi lui praticamente si copre la faccia con le mani di fianco e dal suo corpo comincia a uscire questa nube di spore voi altri fate un perception no ma scusami noi cioè vediamo loro ma loro vedono noi loro vedono voi perché sono nascosti nelle sterpali negli arbusti beh, appunto un po e in teoria solo che adesso potreste vedere una cosa è successo è che ci ho sbordato sullo schermo faccio il perception per capire dov'è lo Su intelligenza. In teoria lo dovremmo fare passivo, cioè dovrebbe essere passivo. Sì, però mi piace vedervi tirare. Allora, 19 se vuoi il passivo, 17 quindi tiriamo. No, anche adesso c'è stata una cosa, quindi 12. Scusa, stai tirando? Perception. Ah, io ce l'ho. Devo sentirci di farlo. No, scherzo. Passivo 11, se no... 1. 2. Ok. Uno, ma grande. Sì, avete delle speranze, se volete combattere. Anche Marge può farlo. Passive Perception 10. Van Richten, dalla sua esperienza, vede della strada questa nube di spore che si sta espandendo. E capendo il pericolo vi dice: presto, formate un cerchio. Siamo in 4. Siamo in 4, vi facciamo fare un cerchio. Mettetevi. Grande, bellissimo. Ma siamo in 4. Anche, allora, anche uno fa un cerchio se fa così. Allora ci mettiamo tutti così. Io che qualcuno si invita nell'esercito. Adesso cosa entra da quelle nubi? Vabbè, con l'alce siamo in 5, cioè di pecco, i cavalli siamo un po' di più. Se vuoi, mettiamo i cavalli di traverso. Vai, facciamo sto cerchio. Man mano che questa nube si espande, vedete che degli arbusti cominciano a muoversi e come prendere vita. E nella... Posso fare Magic Circle? Cos'è Magic Circle? Non mi ricordo. Non so. Credo sia quello per evitare il teletrasporto. Boh. Ah. E niente, vedete attorno a voi queste, anche, le vedete ovviamente anche voi due nascoste, almeno 8 di queste figure che... Forse devo dire alzano. Carica, non so. No, quello è semplicemente un riflesso che quando si sentono in pericolo... tipo funziona con la scoreggia. Infatti lui ha cercato di stare... nascosto, scorreggiano, esatto, è un meccanismo di difesa automatico. Anch'io ce l'ho. Vabbè, noi nella prossima campagna farò un bardo che perculerà tutti. Voi non sapete che loro chi ci sono, è vero. Però appunto Van Richten adesso ha visto che la nuvola e quindi sa che verrete attaccati tra poco, quindi andare oltre sarebbe pericoloso. Ma non da noi. Vai, c'è il suo cerchio. Ma lui è convinto che siete voi, lo sa, lo sente, lo percepisce. Vedete, per adesso 8 figure. 8 figure? Sì, 8. Che si... Che tipo di colore? Queste sembrano degli umanoidi, ma composti interamente da pianta. Sì, un mini end, se fai conto. Ricoperto di spine. E che dicono io sono Groot? Non dicono io sono Groot. Ah, come si chiamano i più malvagi? I Needle Blood, sì, gli arbusti maligni. Sì, maligni, esatto. Interpretiamo i maligni. Fare gli arbusti. E quindi una volta che cominciano a muoversi, le spine del loro corpo cominciano ad essere sparate intorno come proiettili. Quindi... Ma le spore di prima non hanno... Hanno risvegliato questi qua. Capito. Quindi, tre intorno a voi due nascosti. Vi sparano. L'hai fatto... 20, buono! Questi mancheranno. Ma questo prende bene. Il più nascosto tra voi due era ovviamente Race, che aveva fatto un numero infinito, quindi le spine beccheranno il povero Athanas con un bel ventello a te, l'altra gioia, vero Metz? In realtà Metz è sfortunato perché sono 16 i cattivi danni. Sono i dadi 16 di danni e i buoni sono i dadi di me Arci, il problema è quello. E poi Riclavio Scio è stato. In realtà il problema maggiore di diverso è quello che noi tiriamo i buoni. Altri tre attaccano. Vabbè, Marci. Classe armatura 16. Capisce solo uno. 7 danni perforanti. Cioè, con una spinina ti fa 7 danni. 2 di 6 più 1. Ma puttana. Adesso vedrai quando gli ha fatto 16 danni. Ha crittato. Vabbè, però era crittatone quello. Quindi significa che comunque 8. Significa minchia. Ne manca. Io con 4 di 6 ho fatto 7, quindi non vuol dire. che attaccano Rectavio. Mi piace, eh? 12. Uno ti colpisce o no? No, sono la polizia, il terrorismo. Sì, esatto. Aia, 11 danni. Quanto è il punti di vita? 77. Ah, ma ce l'hai anche tu? Lì. No, me lo ricordavo. Sì, tu quanti punti bello. Ferita hai, Arci? 85. Ma è grosso. Sì, scrivi 35. Che classe sei tu, guerriero barbaro? Mago. Scrivi, 40. Hai capito? 85. Scrivi. Dovevi dire un pochino meno dei miei. Era credibile almeno. Hai detto più dei miei. Atanas, vai. Non so se mica sono classico come il ladro. Tocca a te. Al ladro? No, Ma non so che cos'è, cioè, l'arbusto che ha rinato gli altri arbusti. Cosa sta facendo? Non so se un mago o uno stregone. Puttacchia ste spore. Che lancia gli incantesimi. Allora io dico. Ah beh, guardo la sua caratteristica maggiore, la saggezza. E gli dico. No, è un mago. Ah, sì? No, perché avrebbe l'intelligenza più alta. Cosa no, sai. Vabbè, farlo comune. No, non è bello. Siamo amici. Siamo con strano. No, ormai. Stai parlando con una pianta? Curiosità, che classe è? Esatto. Mage. No. Sì. Rectavio è un NPC, cioè non ha una classe. No, no. Cioè ti dice che tutti è hanno una classe. No, solo il personaggio ha una classe. Io non io è comunque più o meno l'equivalente a un mago di 10. È un mago, eh. È più un chierico. Un mago costando la mina, lui non ha una classe. Lui ha classe. Oh. E poi aspetto di vedere, preparo l'azione di attaccarlo se succede qualche cazzo. Sì, Rectavio è un mago di nono livello. Persuasion, vuol dire che è un incantatore di sì. Nono livello. Vabbè, il mago intanto fa magie. E dice che la sua caratteristica è la saggezza. Perfetto. Il chierico fa chierichierie. Sì, per me è un chierico. 4. Si fa le critiche ecco. Smette di spaccare spore. Si guarda anche le magie. Però chiaramente quelle che sono già nell'aria. Sì. Sì, però rimango, sì. Ci rimangono. Vabbè. E quindi devi dirmi la che azione prepara. I seguenti incantesimi da chierico preparati. Cioè, Vabbè, ma cambiamo zona, nascondiamoci un po' più in là. Sì, mi sposto un po' più in là. Nella boscaglia. Quanto sui riflessi? Vai, tocca a Salla. Quanto? Io lo seguo nascosto. Dai, Salla, vai. Ce la puoi fare. Comunque ha dei tratti poverino. Questo poverino mi fa un po' pena. Anche Irina. Stai leggendo la storia? Sì, un pochino. No, leggevo. Basta, se non ci dai merda. I tratti con le poverine. Sono maledetto. Non hai pace. Contrariato che noi stiamo nascondendo. Un pochino sì. Comunque se fai uno stealth tira pure. Per proteggere quelli che amo devo tenerli distanti. Nascosti. Usciamo e diciamo e gli aiutiamo. Cioè, diciamo. Ma chi? Vado su uno di. Specifica i soggetti. Perché... Ah, aspettiamo un po' di vedere da che parte stare. No, ci sta. No, allora aspetta. Scusa, c'è qualcuno di quegli arbusti vicino a loro? Sono tutti dai 30 ai 20 piedi perché attaccano sulla distanza. Ah, non so. Vista, immagino. Cosa? Cioè lo vedono in vista. Il soggetto chi è? Loro vedono chi? E che in realtà io pensavo che gli arbusti avrebbero attaccato loro, quindi noi siamo arrivati. Beh, stanno attaccando loro. Gli arbusti vedono loro e quindi gli stanno sparando. E questo è quello che stai chiedendo. Sì, però se il combattimento riusciamo a risolverlo vicendevolmente. Vardi strana gli altri, sì, vedono gli arbusti. Allora esco e faccio un attacco a sorpresa. E non essendo sorprese è un attacco normale, però lo puoi fare. Allora faccio un attacco normale, anzi due. Ma a sorpresa. Ma sì. Insomma sono i 30 piedi dentro la boscata. Faccio 20 non naturale e col secondo faccio 19. Colpite? No, ho detto una cazzata, col secondo non ho colpito. Perché mi ha fatto la somma e invece ti ho dato 2 e quindi è 8. 12. Quindi 20 e 8. Ok, il 20 colpisce ovviamente. E gli faccio 5 danni. Ok. Quanto è a colpire? Sì. Molto. Perché 5 danni sei improvvisamente diventato un zoppo? No, più 7, scusa. Perché non poteva fare un furtivo non avendo alleati o vantaggio. Vardistran, tu vedi robidi che ci colpiscono. E Race che esce dalle sterpaglie per salvarvi la vita. Vai, attacco il tizio che sta attaccando lui. Okay. Vedi i soggetti, vedi. Esatto. Sto diventando un fremito. Ah, adesso vediamo. Resisti, c'è spuglio. Per Gret. No, attacco. Pure con occhio mio, master, attacco il mio nemico. Esatto. Attacco il cespuglio che lui ha attaccato. Con questo Dario lindo. Ah, aspetta, però, c'ho il coso che mi può dare aiuto volendo. Poi, no, ma dire... forse mi convierebbe quasi. È quasi più forte. Ti metto. Ah, è poi... bellissimo. Sì, perché poi in realtà lui ha due attacchi, mi sa, quando è normale. Cosa? Cioè il run no, e il no. Ah, ok, però ah, dice, tipo, usa uno. Può fare uno solo? No, lui l'altro, quella bazza, tipo che se tu fai un movimento di 6 metri e becchi col primo, piedi. Poi gli fai anche il colpo di cazzo col secondo, esatto. Sì, 6 metri. Sono 6 metri, 20 piedi. Sì. Però io ce l'ho addosso, quindi non posso fare 20 tu hai 6 piedi, hai 6, 20 piedi addosso? Vabbè, allora faccio intanto il mio primo attacco, dai, che è 21. Ah, l'Anders Mark lo sposto su di loro. Esatto. Sono piedi palmati. È vero che tu in urbanismo hai i piedi palmati? Sì, sì, sì, perché non è una cosa schiena. Quando hai fatto a rievocarsi nudo? Bene, se l'ho colpito 21. Ok, 3, quindi su 6, 1 lo ritiro e dietro 4. Quindi 8, 11 più 4. 15 danni. Seccati. Ok. Mi sa che l'Hunter's Mark non lo posso spostare due volte. Sì, lo usi, lo sposti, mi sembra come azione bonus. Sono i compagni di Tenere. Catali da noi. Quindi ti ritrovate. Però adesso l'altro attacco lo faccio su quello di fianco. Non ce l'hai di fianco perché sono sparpagliati. Perché c'è solo uno che posso colpire. Quello è però. Posso muovermi di nuovo con il coso. Con cosa? Con il lance. Pensavo tu fossi sceso dal lance. Ma secondo te io scendo dal lance? Oh, penso, magari vuoi fiancheggiare, non so. Se lo uccidi sono 1800 XP. No. Io sono sul lance e sto sul lance. Purtroppo non andiamo. Questi robi mi erano colpito non perché mi erano addosso. No, sparano aghi. No, che non andiamo in XP. Quindi con l'alce sono arrivato su uno e ho colpito qui. Se no, okay. Vado su un altro. Quanto movimento ha l'alce? L'alce è un botto. Mi piace a te. Cazzo, perché non l'ho scritto? Speed 50 feet. Merda. Puoi arrivare ad attaccare. Ah, un altro sono 20 feet. Se andassimo a Expert, ci yes. Quindi carica l'alce di brutto. L'avevo detto io. Se giù mi dai uno schiaffo, mi ammazzo. Quindi ora l'alce carica. A mucchio. E fa 15. Colpito. Minchia, adesso fagli fare un sacco di danni. No, gli fa dei danni. Ma sta allungando i turni solo per far sembrare utile. No, scarso alce. 4 più 3, 7 danni. E poi tocca il mio attacco. Sì, assolutamente. Peccato, 15 però. Colpito. Se dovesse mai morire quell'alce, puoi descrivere una scena alla Epitry Frame. Il secondo tiro pure al più 4. Il secondo colpo pure al più 4. Sì, quello con, con l'arma primaria. Sommi sempre la forza. 8, 12 danni. Morto. Bam. E dopo Vardistran, uno di voi. Seguitemi! Ma vai tu, prima ho fatto prima io. Cosa faccio bene? Che faccio ancora una fireball? Sono tutti separati sti cose. Perché non l'ho fatto prima? Non è altro. Cioè, c'è una serie di incantesimi. Sì, lo so, ma sono tutti fighi. Cioè, o sparo una palla di fuoco potenziata al quinto, ma sparo solo quando posso colpire loro. Collo di freddo. Visibilità superiore. Spara un fireball. Tieni i colpi per i veri nemici. Sì. Infatti, spara un fireball. Ah, però non lo scritto. Usa disintegrazione. Adesso. No, ce l'hai in mano. Non serve un 2. Ah, scusa. Usa l'incantesimo di più alto e quello che hai. Perché te lo serve un 2? Fa un 2 di 10, giusto? Fai 2 di 10 di danno. Ma l'attacco è 1. Sì, mi serve un 2 di 10, capta. Ma prima devi colpire. Colpisco. 9 più 7, 16. Colpito? Perché più 7? Più 7, 4 di libre efficiency e 3 di intelligenza. 4 e 3 fa 7. Ci fidiamo. Vai, vai, vai. 11 danni. Morto. Compagnia ciò. Sì, ho capito. Ti sei scelto quella compagnia di nonno livello. Grazie al cazzo. Ma Richter. però, cazzo, sì. Però no, il problema è che Kat ha dato in mano la scheda a me, la scheda di Rictavio a me, quindi... Solo che Giulia ha scelto come suo comportamento. Molto semplicemente non conosco i miei incantesimi. Aspetta, cioè, che le distanze sono da me, che va di cinque. Sono a 30 piedi. No, che non li conosco, cioè, non li ho mai usati. Non ho mai fatto il chierico io. Cerco vai, 30 piedi. Ma usa un cantrip. Ah no, c'è cioè The Cantrip in merda. Esatto, un sì, è più un personaggio di supporto in realtà. Quindi vai lì e attacca in corpo a corpo. Attacca in corpo a corpo. Perché ho quel 3 di 6 in più. Infatti non ho un'azione bonus io. Non lo so, guarda che incantesimi. Sì, sì, no. Parla con i morti. Attacca in corpo a corpo. Sì, ci avevo pensato prima col cavaliere. Per quello gli ho detto è sicuramente ostile. Perché volevo parlare con lo scheletro. Quello lo puoi fare anche senza incantesimo. Incantesimo sarebbe per chi è morto. Il cadavere. Hai ragione. Era bello però. Aia, 14 colpito. Sì. Quindi 4 di 6. Non è un non morto. Si è abbassato. Ah, giusto, non è più un non morto. È vero, no, non ha col 3 di 6. Tu che dicevi anche sì. Mi sono sbagliato. È una pianta. Che per qualche motivo. Ah, ma suscettibile al fuoco. Ci avevo pensato, l'avevo controllato. Ma sì, mi ero... frega il cazzo. 7. Vabbè. Come tutte le piante. 7 danni. Sì, prima li ho tirati 4 e ho fatto. Non lo stesso numero, adesso tutte le piante in muro. Sì, 7 danni. Ah, però ho multi attack. Allora. Posso fare un altro? C'è scritto quanti ne puoi fare. Rictavio makes 2 attacks. Sì. Dopo tocca a loro. 21. Quindi direi che colpisco 21. E 7 danni. Muore. Beh, direi che... mi piace questa compagnia. Speravo fossero... A morte Garrosh, questo è il mio PG. Basta. Di loro sparano possiamo sulla... bestia più andiamo pericolosa l'alcio. I nostri compagni, questa è la nostra compagnia, la sarmatura dell'alcio. Cazzo, sì, andiamo. 12. No. poco 12 10 andiamo stuprato, no, non uccidere l'alcio. Dai, sei un maiale, sei un maiale. Devi dai, colpisci bene. Quanti punti verità? 13. Beh, uno lo colpisce. Devi basta. Descrivere la scena. Mi raccomando. Ragazzi, sti bagagli sparano delle spine. D'altra parte si chiama Adenov, non può non morire. No, anche te l'hai chiamato così. Prima sì. Lo colpisce e gli fa. Sì, però gli altri colpiranno. 10 danni. Cioè, vuoi colpirla davvero? Vuoi fare una prova di cavalcare per deviare un colpo? In genere il corpo a corpo, però è figo se provi a deviare. No! Va bene, non può mettere cavalcare, che cos'è? Forza. Può provare Animal Handling. Animal Handling Wisdom. Non c'è più cavalcare. Se no, non può provare lui. 16 a mettersi davanti. Sì, uno devi un colpo, che quindi ti fa 6 danni. E poi il terzo invece gli arriva alla povera Adele. Sarà, hai visto Aladdin? No, allora che sei da tutto, comunque. È bellissimo. Che ne so io quanti PF è? 13, ma ovvio, se non vuoi colpisci con tutti, però c'hai paura. No, ha fatto 3 attacchi. Per ora di reaction. Dai, ora devo fare 10 minuti in cui arriva la cosa. Hanno fatto male Jafar, che sembra un rinquinamento. Jafar è un coglione. Solo perché io ti ho ucciso il coso 100 volte. Il Jasmine non dovrebbe fare niente, se non essere ritardata. E cioè, improvvisamente è rivoluzionaria. Vabbè, siamo nel 2019. Cioè, tra l'altro sono tutte cavalcature, quindi anche il bastino sarà una cavalcatura. Se tu non fossi un pelandone con l'arma. Però devo dire che le canzoni che hanno fatto, che volete per lei, erano solo sue, non sono brutte. Niente, io sono a terra, devo fare una prova. E poi vabbè, il genio. Non so, l'animale. Se parte del genio quando entra nella casa, magari si è rotto una gamba. No, dico per me. Con quella punta di Will Smith che ci dovrebbe essere. Ce n'è uno che. Beh, sicuramente l'hanno reso migliore. Uno che attacca. Non dovevano dire più straccioni, nel mio poco di straccioni. Lo chiamavano ladro. Poi, ma tu ti addentri nella foresta e ne trovi un altro. È di fronte a te, essendo davanti, cioè praticamente quello pensavi fosse una pianta, in realtà io la pianta io faccio così e ci teniamo e questa cosa, mia questa merda di cose, cioè, beh, questo va bene, ti manca, siamo di nuovo livello, sì, qui non saliremo mai oltre il quinto, però fa merda. Va bene, ma voglio il mio druido, questo fa merda. Ah, tocca a te. Picchio quello davanti. Insomma, hai fatto due fireball. Ce n'è solo uno. Sì, perché i nemici hanno 5 di vita, non perché le farmi sono forti. Cioè. Tu ne vedi uno. No. Qua. Vabbè, lo attacco. Non è giusto. Oh, critico. Poi in teoria un terzo attacco. Ma sono immuni al critico. No, non ci sono più quelle belle cose. Le belle cose. 7. Dopo di lui sta Sal. Sono 10 danni con un attacco. Sono altri 8 con un altro. E ho un terzo attacco. L'hai già. E lo faccio comunque. Muori. Però faccio 15. Non c'era un altro accanto, no? E faccio 10 danni. Bene, lo hai polverizzato. A un albero. Hai attaccato un albero di bianco. Ho detto shh. Vai. Race. Ce ne sono 4 intorno a voi e poi quello da Giulio che però non vedete. Allora vado su un altro libero e lo attacco. Mm-hmm. Colpito col primo e colpito col secondo. Okay. Perché uno è 21 e uno è 27. Direi di sì. Sì, no, 26, scusa. Bravo, Salma, anch'io sembravo a giocare così, Lo faccio anch'io, schermino sta casa. Uno faccio 24 l'altro, e l'altro 36. Quello che ha evocato i cosi, è fermo lì. Sì. Che si nasce, prova a farsi piccolo piccolo. Okay. Sono 5, 8, 12 danni. Morto. Perché non avete risposto? Non volete venire al sushi di palle 23? Io non ci sono. Non lui è Montenegro. Perché sei dei negri? È sul monte dei negri. Ma se del mondo di negri. In ferie. Ah, che ironia. Quando ti chiediamo noi di prendere le ferie, non posso, sono nella banca nuova, mi piace. Chi sì, mi ha chiesto di venire ad Amsterdam con noi, io non posso andare ad Amsterdam. Grazie. Voi mi avete detto, noi andiamo il 22 gennaio e io inizio al lavoro 21, non posso prendere il 22. Non capisco cosa stai dicendo. Siamo andati, non ci siamo andati a gennaio noi, sai? Febbraio. Per entrato, quindi non avevo neanche preso proprio le ferie. No, è che abbiamo provato prima e Betsy faceva mille scrupoli. Non potevo in quel periodo. Non è quando siamo andate. Non potevo in quel periodo lì, quindi voi avete fatto. Perfetto. Con chi vai in Montenegro? Sentiamo. Fabbro Eva. Vabbè. Salla, cosa fai? No, ho ucciso uno. Giusto. Mi immaginavo volessi anche tipo dire qualcosa, però va bene. Allora tocca a Vardistra. No, quanti sono rimasti? Due? Sono rimasti intorno io a voi tre. Mai. Tre. Dopo di lui tocca. Tre più Giulio e... Avendo perso la mia il mio fedele destriero, ma è caduto mentre è morta là. Posso andare ad attaccare uno? Allora, rialzarti ti costa metà del tuo movimento. Teoria, sì, la... invece bene tutto il mondo. Quindi ti rimarrebbero 15 piedi. E più vicino a 20 piedi da te. E quindi non ci arrivo. Quindi hai altri modi per muoverti se proprio vuoi. Puoi strisciare come un verme. Ci arrivo addosso e non posso staccarlo. Sì. Immagini mezzo. No, devo fare il Misty Step, non lo faccio. A quello? Ora hai un giavellotto, uno sputo. Quant'è la velocità di strisciare? Così non si guarda le gambe. Non posso portare voi. Voi potete portare. No, delle due. Sì, che sì, con metà movimento. Scusate, mi interessa, è un'invocazione, dovrebbe scomparire lì sotto. Mi fa una cosa. Dovrebbe cadere a terra. Giocatore. Vabbè, cade comunque. Se scompare una cosa che tu sei cavallo, cadi in così. Improvvisamente scompare. Cadi e col sedere per terra. Quasi anche peggio. No, ma conservi tutto il momento. Sei un arce grande. Sei un arce grande, sei proprio in alto. In modo di cadere. Tu sei seduto sull'alce. Sei cavalcioni, però non sei seduto. Vabbè, non hai idea di come funzioni la cosa. Cadi per terra. Siete mai stati su un cavallo che vi è scomparso sotto il culo voi? Che sia scomparso sotto il culo o no? Io sì, certo. Sei così hai tutto il peso qui. Quindi teoria cadi comunque indietro. Se cade prima il culo delle gambe. Ma anche se cadono prima le gambe, cadi che non hai l'equilibrio. No, cade prima. Sì, comunque c'è l'equilibrio. Sì. Cioè, caderanno anche prima i saloni. Se voi non diceste stronzare tutto il tempo, lo sentirei. Hai detto bene. Ho detto che vabbè, non è un problema. Noi diciamo stronzata. Non è un problema. faccio il mio movimento, okay, e poi faccio Bane. Quindi tre creature. Stiamo pensando tutti, esatto. Tre creature. I tre robi fanno un tiro salvezza, no, superiore. No, è quello per tipo nerfarli i tiri. Riga, ma state veramente facendo questi casini per sti tre, sti tre piani? No, non guardare, quindi sì, vabbè. 17, 17, 10, 11. Vabbè. Sul carisma, sai quant'anno in carisma? Sì, vabbè. 25. Io non so, però aspetta, con quanta sarà la mia CD? Non mi ricordo, però sicuramente 8 più la sua, ma profilisce che è 13. Più il bonus di carisma. Più con cosa lanci? Più bonus di carisma? Sì. Ah, allora no, è 16. Che rompicoglione. No, aspetta, 14. Sì. 14. Superata. L'hanno fallito. Esatto. L'hanno fallito, no, tutti. Sì. Avranno carisma 3, 4. Ah. Figo, allora muoio. Carisma 3. E perché? No, non è vero. Hanno un tirano un D4 quando, in meno quando colpiscono. Ok. E poi l'Hunter's Mark lo sposto su, okay, su quello vicino a me. Prego. Firebolt! 18! 12! Segato. Rudolf Van Richten. Posso regalare il mio turno per una Firebolt che funziona? No. Vabbè, Sceo, cioè, hai un personaggio più forte di tutti. Porca puttana! Colpisci, fai qualcosa! Non sparo una palla di fuoco su Sceo. Andiamo da prima. È figo negli incantesimi perché ha degli incantesimi di merda. In corpo a corpo è una pippa. Tanti, io non so dove è il sì, ma tu sei una pippa, non lui. Fa un D6 di allora usa gli incantesimi. No. Che fanno merda. Ma fanno merda, ma può essere, è un personaggio di un livello. Come fanno a cagare? Cioè. C'è un incantesimo di quinto! Sì, c'è anche magica, il nuovo maledizione, parlare con i morti. Sì, ma penso che okay, a Death Ward, sì, effettivamente. Che cosa, questo è tipo invece di saggio di quinto? La lanci di, no, quello è se la lanci di quarto fa un di 6 in più, però ha uno slot sopra il terzo, quindi se la lanci di quinto fa 10 di 6. Prima ero forte perché con con lo scheletro, cioè, no, allora sì, va, cioè, nel senso, fai qualcosa. Migliore, sì, beh, comunque, due attacchi. Fai due attacchi in corpo a corpo. Ma su due di 6. Cos'è sto Death Ward? Fa cagare. Ah, è vero. La protezione dalla morte. Ti stabilizzo, ti manda una, non mi ricordo. Sì, è vero. Di corpo a corpo. Faccio il mio. Perché questi non sono malvagi, no? Non sono non morti. Sono morti. Vabbè, non vuol dire dispel. Cosa? Sì, ma non dispelle le creature. Oh! Hey, undead and creature originating from beyond the material plane. Vabbè, no. Adesso perché il tuo round deve durare 20 minuti? Il mio round è finito, è Sceo che non sa usare. Io ho un personaggio che non sa usare. Sceo attacca in corpo a corpo. Io l'ho già detto. Fai due attacchi in corpo a corpo. Cioè, hai due attacchi. Cazzo. 10 10 totale. Sì. Più 4, non è che ho più 26. Catta? Fai avere un più 4. Poi dagli Pietro a lui. Non c'è 14. Dagli Pietro. 13. 4. È vero, Pietro non ha fatto nulla. Pietro non ha prima comunque due attacchi al massimo dei danni ho fatto, però. Vai. Ah no, sta a loro. Perché io ho più 5 al colpire, che sono un mago, tu che sei un chierico più 4, che cosa attacchi? Te? Perché ho forza 9. Sei tipo già i miei. Allora, loro prendi, tirano 9. Un D4 in meno per colpire. Che ti devo dire? Sì. Cioè, in realtà non è così forte. Sì, sì, è forte contro i non morti magari, ma basta. È specializzato in colpire. Esatto. Che tiri, questo ha fatto 0. Va bene, vai Atanas. Oh. Ah sì, tu sei nel bosco e hai ucciso... questo barbusto, ovviamente voi altri sentite provenire dalla foresta il suono di un taglialegna. E adesso non ho fatto così tanto, cioè, vado, hai attaccato. Atanas non ha trovato un cavallo. Da quello che fa, che colpisci, attaccare rivela la tua posizione, anche se sei nella notte più buia. Se non fai nulla per evitare che si, senta, se gli altri sentono il rumore della lotta. Quello vabbè, quello vabbè, vabbè, vabbè, io non lo so che dire è l'Atras, no? Al massimo si sente un rumore. Ce ne sono degli altri. Ci attaccano dalle foreste. Tecnicamente sì. Sono mille. Cosa fai? intorno dove c'era l'arbusto. Sì. Quello rannicchiato. È ancora lì rannicchiato. Sì. Immobile, terrorizzato. Lo prendo. Quello che dicevano non può far danni. E lo porto dentro la foresta. Dentro la foresta? È un chierico di supporto, di fatto. Ok, quindi. Supporto degli avversari. Vabbè, arrivi lì. Lo prendi in braccio. Lo tiri in braccio. E vabbè, il tuo turno quindi finisce lì. Stai facendo? Ok, sì. Vabbè, se no aspetta. Si sta cullando il suo amico arbusto. Cioè, sì. C'è robusto, prima era barbusto, adesso è robusto. E dico, tranquillo. Sono io qui, appunto. E Race. Vado su, quasi rimasti uno. Due. No, due, di cui uno ferito da Van Richten. Vado su quello non ferito. Quindi non vuoi proprio fare un furtivo. Vabbè, vado su quello ferito, intanto hai sprecato il furtivo. Sì, hai ragione. Allora, primo attacco faccio 22. Colpito. Il secondo fumble. Va bene. Quindi sono 15 e 19 danni. Cioè, morti. Secondo morti è forte. Fatta a fare 19 danni. Cioè non ho neanche cose da dare a te. Cioè da aiutare. Sì, è vero, top, te l'ho pure detto anch'io di farlo. Quindi. Cioè, ho tirato anche un po' di me. Bardistram. Sì, rimane uno. Di nuovo, vabbè. No, se vuoi puoi saltare. No, no. E chi è rimasto? Quello di è che rimasto avevo... uno che è maledetto dal Bane di prima. Eh sì, ma la Death Mark è su questo? Se è su questo. Con la tua opzione bonus lo puoi spostare. Quindi. Sì, lo so, però ne avevo uno 5 piedi da me. Questo che è rimasto vivo o no? No, probabilmente. Ma dove è 2 ore? Ammazza! Vabbè, se devo spostare, sposta e attacco. Senti, non vedo il problema. 14. Colpito. Cioè. Sono 3 di 6. Sono un po' scoppio. Non è un po' scoppio. È rimasto uno, mezzo 18 da madre, dov'è? Morto. Sei contento, Arci? È rimasto uno, mezzo dove fai? No, adesso capito. Io sparo la palla di fuoco, quello che tiene in braccio Giulio, quello che tiene fermo. Sta a te. Che. Bravo, Latras, tienilo lì. No, basta, non è niente. Non lo vediamo lui, vediamo solo. Sono morti tutti, no? Quelli che sono intorno a voi sono morti tutti. C'è da stabilire se tu ti fai vedere o teoria no. No, magari si sente il rumore delle foreste prima. Cioè, sicuramente sentono il rumore. Ora in comune io dico, vi conviene stare fermi. Sì, ma tu l'hai sentito molto più lontano il rumore. Nella foresta. Nel punto in cui lui è attaccato, quello attaccato. È tornato indietro. Sì. Sì, sì, no, sì, esatto. O magari penso che ci siano dei cespugli che stanno arrivando e dicono. No, chiaro, però adesso fallo giocare, cioè fallo giocare sì, come sì. Lui, come personaggio, fa giocare Arci, fa cose strane. Paladino di merda! La tua vita è giunta al termine! Si tratta di grandi dati, va bene, però adesso. Peccato. Abbatto tutto. Ho sempre odiato chi non cade in piedi da un alce che sparisce sotto il suo culo. Brutto! No, bene. Wow. Queste, no, beh, se lo sento in lontananza non malvagi. Vengono verso, no, dico questi esseri sono malvagi, sì. Magari dico, attenzione, allora, sento dei rumori dalla foresta. Interpreto il personaggio, quello che è scritto qui, in teoria lui vorrebbe a tutti i costi, cioè lui dice che il Miale non può essere non sfidato, non preso in sfida, quindi lui deve andare Catta. A combattere tecnicamente. Togli di queste spede, maledizione. No, anch'io sono malvagio. Let's spend mages spend their lives killing and raping all paladins. Good aligned mage offer counsels to noble and dancer power for killing paladins and va bene. Io seguo la scheda. Prima di tutto, Race e Bardistran siete lì. Oh. E vi siete ritrovati. Non lo conosco. No, esatto. Allora dico Race. Ciao, come stai, tipo? Race. Come butta? Cosa fai qui? Perché sei ancora vivo? No, quello beh no. Cosa fai qui? Lo sappiamo. No, doveva dire perché sono ancora vivo se tu sei qui. Seguendo. Ah, mi stavo seguendo. Perché? Cercavo perché devo parlare con Irina e ti avrei spiegato. Mentre io dico l'arbusto. Irina non è qui. Ricorda. Tipo, ho visto. Scappa, mettiti in salvo e ricordati di questo momento. Come mai avete via gli altri piano, quello piano. Che hai come, visto? Come è andata a ballare? Quando sarà il momento, ricordati. Misteriosamente. Sì, abbiamo parlato con e poi mi faccio vedere anch'io. Ok. E cosa avete spunta che Atanas avete partorito con quella mente malata? Ah, scusa, mi sono perso. Ora magari mi dirai anche tu che è buono, è giusto. Mi sono perso la risposta di Race. Scusa, cosa gli hai detto? Che ho parlato a strada. Nel mentre compaio anch'io nella foresta. Ecco l'altro, ne manca solo uno. Giulio dice: lo cerchi, lo eviti. Ma il destino arriva comunque. Rictavio ti dice: sono loro i tuoi compagni, cosa dobbiamo fare? Due di loro. Ciao Kevin. Io come li chiamo? Io come li chiamo? Sentiamo Kevin. Casimir. Kevin. Kevin. Ti chiami Kevin? Casimir. A quanto pare hanno proferito parola con Strad. Sentiamo cosa hanno da dire. E quindi? E quindi Strad ci ha raccontato la sua storia e ci ha chiesto di provare a convincere Irina a sposarlo. Tu sei il buono comunque. Queste risate. Cioè, con il diavolo. Rido per l'assurdità della cosa. Dice. E voi che cosa? Se siete qua, immagino che siete d'accordo con lui. Lui ci ha detto: provate a convincere Irina a sposarmi. Andate a convincere Irina a sposarmi. E io sono andato a convincere Irina a sposarmi. Vabbè, però. Però, poverino, cioè, è sicuro che voi l'avete tradito se gli dice anche così. Però è stato onesto. E infatti io non ho mai detto a Sala, devo dire. Strad ci ha detto che lui ha bisogno che Irina lo voglia sposare per spezzare maledizione. Vedo che la... Anche la decisione spetta a Irina. Quindi io ho chiesto a Strad se posso andare a parlare con Irina e spiegarle la situazione. Vedo che la decisione finale spetterà sempre a Irina. Vedo che la sua malvagità ha corrotto anche le vostre menti, purtroppo, come temevo. Non hai capito un cazzo. Lascia che sia la tua spada a parlare, Race, non la tua stoltaggine. Ma non voglio levare le mani su di voi. Aspetta, anche gli altri due ritardati hanno capito quello che ha capito lui ritardato. Vedo che la malvagità ha conquistato la tua mente. Varrichten dice: tranquillo Vardistan, è d'abitudine di quel diavolo di adescare. Non ho mai visto tanto malvagità di una persona, Race. Con false promesse, false speranze. Non voglio levare le mani su di voi, lasciateci andare, ognuno andrà. E anche noi vogliamo levare le mani su di te. Non ho capito qual è il tuo problema. Dici così proprio. Vedo che la malvagità. Evidentemente il mio problema per te è che non sono un alleato di Strad. Io non ho un problema con te, sei tu che hai un problema con te. Sembra che Race sia sulla nostra strada. Noi no, dobbiamo solo parlare con lui. Non ho un problema con te, sono molto molto. Cosa che devo fare è, cioè, che l'unica cosa che voglio fare, non che devo fare, perché è stata una mia decisione. Mm-hmm. Ok, Irina non è qua. La decisione finale spetterà sempre Irina. Quindi, se Irina dirà di no, io dirò di no. Bene, Irina non è qua. Vabbè, grazie. Ma allora vado a cercare Irina. No, vediamo. E seguo da dove loro sono venuti. Faccio per andare da dove loro sono venuti. Ma è un'altra cosa. Rictavio ti dice: fermo. Voi avete parlato con il demonio in persona. Dovrai dirmi esattamente che cosa vi ha detto e se vi ha dato qualcosa o vi ha preso qualcosa. Ci ha raccontato la sua storia e ci ha detto quindi che lui è stato maledetto e che per spezzare la sua maledizione e quindi per raggiungere la pace deve sposare Irina. Ok. Ma lui ci ha chiesto di comprendere la sua parte. E... pare che in passato questo non sia servito a molto, evidentemente. In che senso? Che l'ha sposata già più volte. Non l'ha mai sposata. Scusa, l'ha mai sposata. No, non l'ha mai sposata. È sempre morta prima. Ricca, Rickman ti dice: Lui vi ha offerto quindi un patto. Che cosa ha fatto in modo... Ha fatto qualcosa in modo da suggellare questo patto? Ci ha chiesto di poterci fidare. Di potersi fidare. E in che modo? Ha chiesto a ognuno di noi di enunciare qualcosa per dimostrargli che eravamo in buona fede. Qualcosa tipo? Un oggetto personale, quindi. Non proprio. Cioè, sì, non suo, personale di qualcuno. Cioè, non oggetto, suo. Un oggetto a cui... Che ti appartiene. Cioè, non a cui tenevo, un oggetto che mi rappresenta. Capisco. E temo di, in questo caso, quindi, di non potervi permettere di avvicinarvi ad Irina. Perché, chiaramente, quel maligno userà... questi effetti personali per tenervi sotto controllo, e quindi andando da Irina la portereste da lui sostanzialmente. Sì, ma il problema non si pone, nel senso che se Irina non è disposta a sposarlo, lui non può risolvere la situazione, quindi di fatto è un impasse, cioè lui non è un problema per Irina, è un problema per noi. Appunto. E vabbè, ma che, cioè, nel senso, io non ho capito tutto questo problema che avete voi con noi, nel senso che noi rischiamo la vita per parlare con Irina, non per fare del male. Le tue intenzioni sono nobili, purtroppo non si può dire altrettanto del padrone di queste terre. E... non è il padrone di queste terre che ha ucciso la propria figlia, oppure altre cose del genere... Sarlanas, devi solo stare zitto. Kaelin, taci. Dopo che ha sgozzato quella famiglia innocente. Altro, dire questo a lui non è proprio il massimo. Vabbè. Non lo sa, Kaelin. Io so, da metagame posso dirlo. Ah, sì, ce lo dico in game. Non era innocente, era colpevole, aveva venduto il figlio, una strega. Ah, l'ha ucciso allora. Sì, che cazzo, io ti. Pare che ormai tenere imprigionate delle popolazioni intere nel proprio, nella propria malvagità sia diventato un atto di nobiltà ai vostri occhi. No, ma questo non scomparirà con Strad. La terra è maledetta, non solo Strad è maledetto. Vabbè. Comunque, signor Reis, prima di tutto è imperativo riuscire a spezzare il legame che voi avete stipulato con Strad, perché finché questo rimarrà tale, lui potrà sapere in ogni momento dove siamo, che cosa facciamo, e quindi anche per noi avervi qui vicino è un pericolo in questo momento. La via è chiusa. Strad ha già la conoscenza praticamente di tutto quello che succede nelle sue terre. Vabbè, ma non è un problema. Cioè, oltre al fatto che si può teletrasportare quando vuole in praticamente tutti i luoghi. Possiamo semplicemente continuare per la nostra strada. Io posso offrire protezione, però devo potermi fidare di voi. Ho capito, ma noi non possiamo stare con voi se il nostro ex compagno vuole ucciderci. No, io non voglio uccidervi. Perché ma vuoi non, uccidervi, voglio, non voglio ucciderli, voglio, però non vi permetterò di... Non vi permetterò di uccidere Irina per il vostro guadagno. Ma nessuno. Allora, se uccidiamo Irina, moriamo. Nessuno di noi vuole uccidere Irina. Se la volete. Non possiamo toccare Irina, ne fate del male. Portare Irina da strada significa ucciderla. Il problema. Voi siete alleati con lui. Il problema di tutte le altre volte è che o Irina, cioè anzi Tatiana e le sue varie incarnazioni, sono state uccise prima da familiari, prima che Strad potesse arrivarci, oppure che lui ha provato a prenderla, quindi a forzarla alla cosa, e lei si è suicidata, è stata uccisa in qualche modo da qualcosa, quindi la maledizione è proprio questa. Noi non possiamo forzare Irina, perché se forziamo Irina rischiamo di scatenare la maledizione e quindi che lei muoia e che Strad ci uccida, tipo la bella e la bestia, di conseguenza. Però mi pare di aver capito, come okay, dice il nostro amico Rictavio, che però non sei tu, sei tu, che possa avervi ingannato Strad. Quindi magari quello per cui voi state agendo è una Non mi aspetterei niente di meno. Da quella bocca non potrà mai uscire verità né nulla di buono. È un... Sono stati retiti, purtroppo. È un avanzo d'inferno. È un ex compagno che non si fida di noi e vuole ucciderci. Quindi, perché dovremmo fidarci? No, io non voglio uccidervi, come ho detto. Non mi fido più di voi, è evidente, visto che siete passati dalla parte di esatto. Strad e ci avete abbandonato. E avete abbandonato me, Garrosh. Andiamo per la nostra strada. No, infatti non, se non volete seguirci, non ci mancherebbe, non dovete seguirci, ma noi non vi facciamo passare. No, voi potete andare per la vostra strada, ma non per questa strada. No, ma non per questa strada. Varrikven però sta dicendo che non possono andare da Irina perché porteranno strada. Possono andare per la loro strada, ma non per questa strada. Andare da Irina, da quello appunto, ma no, appunto, non per questa strada che va da Irina. Questo è il concetto. Cioè, di qua lo passate. Questo è il concetto. No, ma questo... Non pensavo che qualcuno di voi avesse giurisdizione su queste terre. Esatto. Ah, beh, a quanto pare voi siete giustamente dalla parte di chi ce l'ha. Con voi nessuno, però ora che siete dalla parte di Strad, evidentemente... Vabbè, se voi non ci dite dove è Irina, potremmo anche non trovarla, cioè non sappiamo dove l'avete lasciata. Ma non correremo certo il rischio. Da quello che avete possibilità, o vi accordate tra di voi e decidete una versione, un qualcosa da proporci o una versione da dirci, oppure combattiamo. Rittavio, mi pare di aver capito che Strad, seguendo i vostri oggetti personali, può arrivare da Irina quando vuole. Se voi siete dalla parte di Strad, no, Strad può già andare da Irina quando vuole, a meno... No, sapete. Sì, ma siccome voi siete dalla parte di Strad, ok. Però, cioè, non sappiamo dove sia adesso Irina, che sia nel campo di magia, però noi sappiamo che lui sa dov'è. Quello che dice Metz è che se voi arrivate con il vostro oggettino che lui vi tiene in comunicazione da Irina, lui poi si teletrasporta lì. Sì, e no, noi non... Era tanto chiaro quello che ho detto, però... Allora, Strad sa già dov'è Irina, sa sempre dov'è Irina, noi non sappiamo che è in un campo antimagia, quindi per lui Strad okay, sa. Vabbè. Se invece voi fate il metagame che c'è il campo antimagia, perché voi lo sapete... Allora dovete pensare che non possa funzionare neanche con noi, perché se non sa dove è Irina, non però è il rischio che comunque che voi la troviate e la portate fuori da lì. Perché questo è il rischio, cioè, se non vuole. Cioè, il problema è il seguente, dal mio punto di vista il problema è il seguente, cioè, se voi non volete che noi ci uniamo a voi e quindi non è quello che No, io vorrei, magari. E allo stesso tempo non volete che noi proseguiamo la strada. Cioè, la proposta problema. Di Van Richten è di aiutarvi a spezzare il legame che avete forgiato. No, sì, magari. Ardistan farà la sua proposta. No, magari se voi spezzaste il vostro rapporto con Strad saresti bentornati, ma a quanto pare voi non volete. Io mi chiedo, è possibile? Tu chi? Io giocatore, okay. Chiedo, è possibile? Sì, è possibile, bisogna riuscire a recuperare l'oggetto che gli avete dato. Io ho un'altra cosa da dire, però. Come possiamo noi fidarci di voi a questo punto? Cioè, il problema è questo, aspetta. Dicelo tu. Che anche se noi fossimo intenzionati a unirvi, cioè a farci aiutare da voi, noi abbiamo sempre una persona con voi che è fondamentalmente instabile, cioè che quando appena ci vede scappa. Mi sembra che parli di lei, Serbarsa. No, quindi, cioè nel senso, quindi come possiamo noi adesso unirci a voi se poi nella notte io devo dormire con un occhio aperto? Ma non vi ho mai fatto del male, anzi, no, non vi ho mai neanche. No, però lasciatemi parlare, parlate voi, cioè al solito. Va bene, come hai capito male quello che ha detto lui, non ha paura della violenza, ha paura che scappi. No, lui non si fida di me, e va bene, però il discorso è che io non mi fido di loro perché sono passato dalla parte di Strad. No, io ti sono detto, hai capito male, non ha detto che ha paura che fai del male. Ognuno se la può girare come vuole. E quindi ognun per sé. Io mi sono arrivato, sono stato aggredito. Da chi? E non ho neanche potuto spiegare le mie ragioni. Da chi sei stato? Da chi sei? Il signore che non conosco mi ha ascoltato. Ma da chi sei stato aggredito? Si è sentito tradito e non ha voluto neanche ascoltare. Ma da chi sei stato aggredito? Ma da chi sei? Paura è questa. Da chi sei stato aggredito? Chi è che ti ha aggredito? Te. Ti ho attaccato quando? Verbalmente. Normalmente ti ho chiesto dove eri stato. Cioè, è un'aggressione. Appena detto, ho parlato con Strad, tu hai detto, ah, è il maligno, ah, vedi. Certo, perché io sono contro Strad, grazie. Ok, se ti sei sentito attaccato perché ho attaccato il tuo alleato, allora ok, ci sta. Però, nel senso... No, allora, tu puoi girarti... Allora, se vuoi, tu puoi girartela come vuoi. Però il discorso è questo. Il mio personaggio, molto semplicemente, ti dice... io non ti voglio io non voglio farvi del male, io vi voglio anche bene, però se siete dalla parte di Strad, io non posso, non posso, no, è quello che ho detto, no, è quello che ho detto sempre, poi te la puoi girare come vuoi, però è quello che ho detto da sempre. Allora, puoi riascaltartela anche, non è un problema. Il mio problema è il seguente, che io sono un tuo ex compagno, e tu la prima cosa che hai detto vedendomi è, lui è il male, ok? Mentre lui è il male, Strad! Piano, ok, cioè tu se vuoi giocala pure così, non è un problema. L'unica domanda che ti faccio è, ho detto lui è il male, Strad, non lui è il male te. No, lui è il male te, a me hai detto. Oddio, ce lo riascoltiamo se hai vuoi. Detto, sei stato corrotto dal male. Ah, sì, nel momento in cui nel momento in cui hai detto vogliamo portare Irina la cosa, sì. Come anche lui, tra l'altro, come anche lui. Come vuoi, cioè nel senso, uguale. Ha detto le stesse, ascoltandoti entrambi abbiamo detto la stessa cosa. Non è vero. Sì. Anche lui ha detto che il rapporto che avete con Strad va spezzato. Sì, ma non è mai vera sta cosa. Ho detto che lui è male, deve essere ucciso. Tu sei d'accordo? Cioè, no, nel senso, magari sono pazzo io, dico cose che non mi rendo di dire, però... Se volete le ascoltiamo, o dico delle cose che non mi rendo di dire. Comunque il problema non si pone, spezzare il legame con Strad sarebbe anche bello, ma se dobbiamo recuperare i suoi oggetti significa andare al suo castello. Quindi, io potrei aiutarvi in questo. Ad andare al castello di Strad, ad affrontare le sue tre mogli e i maggiordomi, vivi. C'è una strada che ci potrebbe portare all'interno. Oppure in genere... per quelli che lui considera i suoi servitori, l'accesso è sempre consentito al castello. Non se i suoi servitori non hanno compiuto la missione che in cui sono stati mandati a fare. E dalla nostra abbiamo la possibilità di sfruttare le sue debolezze, cioè sfruttare un momento in cui lui è debole. E immagino lo sappiate, ad esempio durante il giorno quando la maggior parte dei suoi servitori non osa, insomma, avventurarsi all'esterno. Chiaramente sì, è una cosa difficilissima, però rimane comunque più pericoloso meno pericoloso del girare colui che ci può saltare addosso in da un momento all'altro. Se ognuno va per la sua strada. Sì. Gli ha ucciso la sorella. Cioè, no. Lui ha ucciso la sorella perché Strad voleva sposarla. Perché la sorella voleva sposarla. Anzi, perché la sorella voleva sposare Strad. Cioè, proprio la merda. Sei la merda. No, cioè, non tu, Arci, però. Cioè, sì. Se vi servirà una mano per andare a recuperare gli oggetti e ammazzare delle sorelle, io ci sono. Sicuramente i maggiordomi e le mogli avranno delle sorelle, saranno sorelle di qualcuno, quindi è giusto ucciderle. Lapidarle. Per fare questo, però. Invece, se noi proponessimo a Irina la cosa, e poi a seguito di una risposta negativa tornassimo semplicemente a Strad. Cioè, il discorso è sarà che loro non vogliono che si ti avvicini a Irina con il legame. Ah, no. Senza per forza andare da Irina, andare da. Possiamo trovare un modo, oddio, di, però, come dici tu, cazzo, non si è spostato niente. Facciamo quello per cui che ci ha chiesto, e poi torniamo con la risposta positiva o negativa che sia. Però, allora, sono d'accordo che si può usare questo escamotage del andare da Strad a dire Irina ha detto no, però appunto... Okay. Io ti guardo un attimo perplesso. Ti chiedo per favore appunto di lasciare che... Insomma, se proprio vogliamo chiederlo, siamo noi da intermediari a questa richiesta, per appunto evitare che voi vi avvicinate a dove l'abbiamo tenuta nascosta. Sì, certo, ne nel senso, io mi fido di voi che andate da Irina e gli proponete sinceramente come cosa possibile questa cosa qua. Però vedi che c'è il paradosso. Le offro il mio più concreto aiuto e il più onesto aiuto, le mie più oneste intenzioni. Di voi, se vuole, non so, un pegno per la mia buona volontà, sono tutto orecchi. Può andare, allora fare in su. La vigna! Esatto. Ah, è giusto, sarebbe molto utile. Posso lasciarle il mio pipistrello, che sentirà esattamente quello che lei dirà a Irina, le fa la proposta e poi vediamo. Vabbè, la si può fare. Mi facci vedere un attimo il suo pipistrello. È un po' rinsecchito questo pipistrello. No, è per caso. Aspetti, gli dia un po' d'amore. Per caso è un famiglio. Sì. Ok, potrebbe essere un po' complicato in quanto il luogo in cui l'abbiamo tenuta si sparirebbe quando quando entra. Però può stare fuori e ascoltare la conversazione Questa proposta dalla finestra di questo luogo. Però scusa, ci può fare. Però dopo, cioè, cosa? No, nel senso che non la fottiamo, cioè non può quello era il tizio. Però vabbè, quelli che avete ucciso, questi? No, quello che ho salvato sempre questo. Sì, ma più timido. Sì, però dopo lo sa dov'è. Sono nelle segne. Quindi appena si voltiamo va lì. Non lo so se dipende, perché il legame con lui, non so se se il pipistrello lo vede, quindi lui lo sa. Vedo dov'è, infatti è tarata. Questo non te lo so dire. Beh, oddio, il pipistrello lo possiamo. Non sembrerebbe così, però, da quello che possiamo evitare che sappia, capisca anche in che posto siamo. Cioè, basta andare lì. Sembrate molto determinati andare da lei, però. Sì, ma non voglio toccarla, devo solo parlarle, porca puttana. Appunto, con questo escamotage, se vuole, possiamo arrangiare la cosa. Sì, questo va bene. Basta tenere il pipistrello bendato, o di giorno, dove. Lui in teoria non vede il pipistrello. Non so che pipistrello sia. E così non può ritrovare la strada e renderle. Va bene, può portarlo abbendato, non è una buona soluzione per il pipistrello, lo porti addormentato. Va bene. E poi insomma vedremo di. In realtà anche bendato, perché a terra c'è un pipistrello, ok, usa un po' di ecolocazione, ma mentre vola. Cioè. No, vabbè, basta che non riesca a ricreare. Beh, mettiamo in una scatola, magari sì, con dei buchi. Magari con dei buchi, vabbè, non te non morto. Sì, è vero, anche non con dei buchi. No, vabbè, la addormenta e poi lo sveglia lì, che cazzo ne frega. Ah, sì, ok, va bene. Quindi sì, se quello che desiderate è porre questa domanda a Irina, possiamo trovare un modo per farlo. Semplicemente gli deve spiegare la situazione, cioè d'accordo. Che Strad ha bisogno di una sua conferma, di un suo accordo, altrimenti rimane maledetto, e in caso di suo accordo la maledizione sarà spezzata e lui sarà finalmente libero, morto, no, però... Ma magari più facile da uccidere. Esatto, la maledizione sarà spezzata e ognuno potrà andare per la sua strada. Va bene. E potremo procedere in questo modo. Adesso però siamo un po' in una situazione pericolosa, perché qui in queste foreste è brulica di lupi mannari e, come avete visto, anche creature più strane. E io guardo nella foresta. Ci rincontreremo. Ritroviamoci dalle mura di Kretzk. Allora, fammi pensare, giovane Vardistran. Giù adesso dov'è tutto questo? Dove siete? Al bivio della strada. Non so dov'è. Tra la torre e. Tra la torre e Vallachis e. Ah, proprio al bivio. È un bivio. Niente, loro potrebbero tornare indietro così da recuperare anche gli altri della compagnia e ci rivediamo dalle mura di Kresk. Scusatemi una curiosità, come anche da solo da Irina, nel senso che poi però una domanda stupida io. Cioè io non ci sono che scusa, però se qua ci sono tre direzioni e vedono che chi va da Irina va in quella direzione. Ehi, ma ti parlo prima loro. Beh, loro vedono che sono venuti da lì. Abbiamo già visto dove venivate. Siete qua. È vero anche quello. Sì, erano nascosti prima. Visti arrivare. Non c'era siete qui voi. Solo per noi valevano. No, anche loro erano nascosti a guardare il cavaliere e poi siete arrivati voi. Sì, però in teoria era il bivio. Quindi però la direzione da cui arrivate si capisce. Ho capito, sono tre strade e noi avevamo guardavamo il centro della strada, cioè la strada. A proposito, non so, però come vi pare? Dipende che punto era il bivio. Però come vi pare, guarda. Cioè loro stavano guardando il bivio dove c'era il cavaliere e vi ha visti arrivare, quindi il cavaliere poi c'è là subito quello che dobbiamo arrivare da un lato o dall'altro, però è uguale, non importa. Sì, ma da un lato all'altro lo vedi, cioè c'è sceglie carta come vi pare. A proposito, cioè sono due lati diversi, non sono due strade vicine, sono due strade così, lo vedi? Voi che cosa vi porta? Mi dica una cosa, che cosa vi portava per questa strada? Ma voi state seguendo le tracce dei cavalieri, però in teoria noi non lo sappiamo, no, però no, che cavalieri tu non sai che no, infatti non lo so, però vabbè è una è un deception, fin qua le seguiremo anche fino a dove da dove sta arrivati, quindi il problema non si pone. Sì, quello che vorrei evitare appunto che voi andaste là con le vostre persone No, quello l'ho capito, per questo possiamo andare, può andare lei da solo o con qualcuno con il pipistrello e poi ci rivediamo da qualche parte. Andrò con Casimir e voi ritornate a Kretsk e poi e distogliete Smeralda da voler attaccare Strand. No, piano, io vengo con loro e vengo con Lara, con loro, ci pazzo. Li dovrai tenere d'occhio, scusa. Ma ammazzano però due contro uno. Cioè, hai l'alce, rievoca. Non ho l'alce, intanto perché rievoca. No, chiaramente lui ha detto che non si fida e quindi proverà a ammazzarmi, quindi io non mi fido neanche io. No, vabbè, però allora cosa ti impedirebbe? Di cosa ci impedirebbe allora noi di seguirvi? Io a questo punto, cioè, nel senso, se lui allora, vuole provare questo tentativo, ok, io personalmente per me è follia. Allora, vieni visto con che me voi siete dalla parte di Strad, io sono affezionato a voi, ma al tempo stesso vedo che non posso più fidarmi, quindi allora Casimir andrà con loro e tu verrai con me. Ma io rimarrei tutti uniti noi e ci rivediamo da Kretz, che loro vanno a recuperare gli altri. Ma maggior ragione, se non ti fidi loro come fai a dire che loro adesso non vadano da strada a dargli la nostra posizione? Quello no, però se sono uno contro due o contro quattro o contro cinque. Bene, allora io andrò da solo e tu andrai con Casimir. No, io posso anche andare con loro, però è vabbè, come vuoi, vado io con loro. Io non mi fido di loro, però al tempo stesso sono anche spacciato. Però vabbè, ci sta, giustamente mi posso anche sacrificare. Va bene, dai, va bene, ci sta, mi sacrifico. Nel senso, non è che tu abbia molte scelte, non ci lasci andare da soli. No, no, va bene. Cioè, ha senso che uno vada a Irina con il pipistrello e gli altri infatti lui dice, io vado da Irina e Casimir e Vardister avranno con loro due. Così tu controlli che loro non vadano da Irina. Mi farvi ricordare che ci fosse uno dei druidi più saggi che abbia mai incontrato con la nostra compagnia. Dov'è? Dov'è che potrebbe... Vabbè, sì, perché lui effettivamente da solo potrebbe giocarsela, sì. È vero. Sì, va bene, andiamo io e Casimir con loro. Sì. Ok. E distogliete Smeralda dal suo piano. È una testa calda, ma ci serve viva. E avrei piacere a rincontrarla. Però è il problema anche che non ci farà rientrare a Kretsk senza nulla. Senza il vino! Senza il vino o l'abito. E beh, testa calda, quella che lui sta accompagnando. Beh, voi sapete che adesso entrare a Kresk non è più un problema. Infatti io dico, come siamo entrati la prima volta. Come si entra? Si entra. Voi come siete entrati a Kresk, scusate? Abbiamo chiesto di entrare. Ah. Beh, allora non c'è problema, direi. Esatto. Ma guarda per terra... è passata una carovana da questa strada di recente, che voi sappiate? noi seguiamo voi. Ma ci sono molte altre tracce di cavalli qui che vanno per l'altra strada. Sì, c'è il borgomastro anche che mi inseguiva. Perché ci inseguiva il borgomastro? Per sincerarsi della vostra salute, anzi della salute di Valdistan. Mi sembra stia più che bene. Appunto, infatti sarà tornato a Crema. Avremmo visto delle tracce che vanno in senso opposto. Sto fondo. Oddio. Si sentono nel lato, spero di no. Per uscire con chiuso, non si sentono. Con diversi cavalli, e, insomma, da una città fortificata deve aver avuto un motivo molto urgente. Sì. Voi sapete qualcosa? Sì. Che cosa? No. Guardi, sono il cattivo! Sì, praticamente ho fatto in modo che lui mi inseguisse per inseguire più facilmente. Lui immagino sia tornato indietro. Vabbè, ci sarebbero delle tracce in senso opposto. Vuol dire che non sono ancora tornati. Sono dall'altro bivio. Nell'altro, loro ovviamente fanno la strada normale, non quella dei boschi. E bisogna avvisarli. È pericolosissimo andare per queste strade. Lo saprà. Cristo. Sì, tanto. Ma se gli avete detto che deve correre per un'emergenza, probabilmente ignorerà la prudenza che normalmente si raccomanda in questi posti. Magari arriverà Vallachis e prenderà lui l'abito da sposa. Pare che voi abbiate una certa influenza però sulla comunità di Kretzkorn. E questo è l'ultimo della seconda. Ah, voi? Se sono andati al borgomastro e gli hanno detto fai questo e lui subito, così evidentemente saranno dei capi ormai lì. Beh, è per quello che dico che non sarà un problema. Sì, hanno. Potremmo usare questa cosa a nostro vantaggio, però a questo punto sono preoccupato per il borgomastro. Se dovesse cadere in una qualche imboscata, Kretzk sarebbe in pericolo e è, penso, uno dei pochi posti sicuri che Kretzk è già in pericolo. C'ho ragione. Ma io e Sheo siamo. Tu e Sheo vi hanno detto andate a tenere d'occhio Esmeralda e loro due sono andati via. Voi avete cercato un po' ed Esmeralda non c'era. Che cosa fate? Vabbè, intanto. Se adesso non ho un RPG. Sì. Vabbè, io tengo le caratteristiche di questo. Però scusate, noi abbiamo salutato lui. Loro due. Loro due sono partiti. In realtà perché sono io che sono tornato indietro ad avvertire. Che stavano partendo. Vabbè, come eravamo rimasti? E loro vi hanno detto. Io vi ho detto di tenere d'occhio Smeralda. Che saremo visti tra poco. Qui erano rimasti quelli strati da noi. Quindi noi sappiamo da che parte era scappato Vez, perché ce l'ha detto lui. Cosa aveva detto Vez? No, ce l'ha detto lui quando ha cercato le tracce e tutto, abbiamo capito come è uscito Vez. Quello sì. Sì, c'eravamo tutti. Sì, però se ci ha detto. Aspetta, quindi cerco se Esmeralda è uscita da lì. Cerco, guardo le tracce per capire se anche Esmeralda è scappata. Ma a noi Esmeralda ci scappava da sotto gli occhi? Sì. Ma da quanto? L'ultima volta che l'avevate vista era quando avete chiesto all'abate di fare una riunione tra di voi e dove vi siete raccontati tutto. Giulio mi ha detto tenete d'occhio Smeralda e poi io mi accorgo che è sparita. La prima cosa che faccio è da solo un animale veloce e comincio a perlustrare le zone. Ok, però una cosa che è successa immagino tanto tempo fa, qualche ora. Comunque sì, cioè, avete visto ritornare lui, vi ha detto noi adesso andiamo a rincorrere gli altri e tenete d'occhio Smeralda, voi siete andati a vedere dove era Smeralda e non l'avete trovata, esatto, non avete trovato tracce in quel passaggio che non lui aveva trovato. Magari direi Ugrush, tu se taccio questa zona e io un'altra. Magari l'abate mi ha fatto un favore, ha risolto il problema. Non dividetevi anche voi, per favore. Spieghiamo. Chiediamo all'abate prima se l'ha visto. Vabbè, ti ha informato se l'ha vista fuggire, però. Sì, ha detto il vostro amico di cercarla, ma non la sto trovando da nessuna parte. Anche i due. Non ricordo il cognome di questo. E non avete. Belgio? Che stanno alla porta loro, no? Sono due alla porta, sì. Chiedo se l'hanno vista passare. Non abbiamo visto nessuno. A parte il vostro amico che è tornato. Allora ovviamente richiedo all'abate se ci sono altre vie d'uscita. O altre guardie che possiamo andare a vista. No, perché la via principale è la porta del cancello. Beh, poi il nostro amico è riuscito a scappare. Sì, ma questa pesca è la smeralda, è la zingara. Una vistana. Una vistana, sì. Quindi sicuramente si è calata dalle mura da qualche parte magari. No, però ci sono. Salvate il lavoro. Ci sono in realtà altre vie, ha visto il nostro ex compagno. Dividiamoci un attimo a cercare, non è, cioè, dividiamoci. Lo sa l'abate che dove è scappato? Dove è stato? No, l'abate non lo sa. Ah, ok, allora non lo dico. E comunque lui ha trovato lo scolo, però sì, da lì non ha capito. Non so come è scappato. Ah, ok. Non ci sono altre possibili vie d'uscita. Sono delle finestre che danno sulla rupe, cioè sulla strada sottostante. Posso provare a guardare se ci sono eventuali tracce? Certo. Basta, ho già segato giù. Survival, immagino. Fammi vedere dove stanno le finestre. Per te. 18. Ah, entra nel mattatoio, quindi. No, aspetta, no, tizio, piano. Questo non me l'hai detto prima. Le finestre stanno lì. Chiudo la porta. No, fammi vedere. Voi ci sono entrato? No, vabbè, sì. No, tu non sei mai entrato nel mattatoio. Sì, cioè, mi hai detto che le finestre erano una cosa. C'è entrato. Sono entrato per forza. Le hai viste da fuori, le finestre. Ah, da fuori? C'è entrato. No, altrimenti gli avrei descritto tutto il mattatoio. Ma secondo per me l'hai fatto. Solo che il mattatoio, ascoltiamo la descrizione. O... No, rega. Chiudi. No, devo cercare Smeralda. Non so da dove è scappata. L'unica via d'uscita eventuale sono quelle finestre. Tu? Sì. Senti di brutto. Sì. Proviamo a guardare nel mattatoio. Ma che tesoro. Via d'uscita. Sì, sto pensando. Però intanto si deve fare un giro mentre tu guardi il mattatoio. Va bene. Cioè l'animale, retta, sì. L'animale, va bene. Esatto. Che animale diventi? Uno veloce. Allora, quindi noi uno yak. Città. Città. Nel frattempo noi torniamo alla città. Nel frattempo, sì, cioè, però lui ha posto il problema, guardate, il borgomastro rischia di morire, cosa vogliamo fare? E se andassimo a cercarli noi, nel frattempo? Il borgomastro, dice? Sì. Era quello che pensava di proporre. Sì. Però avrei bisogno di 10 minuti. Sì. Per rifare la mia cavalcata. Rifai la tua cavalcata. Siamo a piedi, quindi comunque faremo un comodo. Presumibilmente torneranno indietro a un certo punto. Se saranno ancora vivi. Cioè, noi dobbiamo andare a aiutare la missione che aiutava. Sì, esatto. Beh, li avete mandati voi, quindi è il minimo. Giusto. Non sono stato io. Diventi un lupo che così puoi fare. Non sono stato io. Non sono stato io veramente. Prendi il manuale dei mostri per sì, esatto. Però dovete darvi 10 minuti. Sì, beh, allora io torno in città. Cattano mosso venire tipo un 10, girovagando. No. Cosa hai fatto? Può usare un passivo. Dipende, però, io posso evocarlo anche mentre stavo cavalcando dietro casi, giusto? No, a cavallo no. Ma tanto sono a piedi loro. Loro sono a piedi. Ho fatto 4 e 1, allora devo evocarlo. No, in realtà abbiamo un cavallo. Voi due? Wolf, un cavallo. Perception. Eravamo andati via con un cavallo che tenevamo al guinzaglio. No, okay. Siete c'eravamo nascosti nel bosco. Sì, sì, cavallo. È vantaggio. Ah, ok. 4 e 1. Abbiamo lasciato un po' lontano. Hai un grosso più 3, 7. L'ultima traccia di odore, cioè, che hai siamo sentito, arrivati senti di Smeralda. Prima abbiamo sentito il rumore. Prima. Intorno al cancello d'ingresso. Qui sono lì. Quindi passate da lì, però poi non sai dove andare. Scusami. Adesso io voglio bene ai due storpi, però. Però non hanno visto nessuno. Come magari ha invisibilità. Puttana. Chi? Può seguire le tracce? Smeralda. Figo. Sì. Survival. Vabbè. Col lupo. Faccio una cosa fuori dal gioco. Possiamo evitare la descrizione. Vanno del verso la città. Perché tecnicamente mentre lui faceva questo entravo nel mattatoio, però non ci blocchiamo mezz'ora. Beh, lui può dirti bau bau. Sì, no, solo per evitare di perdere una mezz'ora. No, magari dopo che vedo che le tracce vanno un po' verso la città. Non c'è altra strada comunque. Vabbè, vado a dirlo a lui. Ci torno indietro e dico cioè io vedo un lupo che mi aggredisce. Torno. Io vedo un lupo che mi aggredisce. Esatto. Non posso vedere. Beh, tiri un colpo divento io. Ah, sì, vero. Tiro un altro colpo e diventi un lupo. Diventi un orso. No, vabbè, allora ti dico che ho sentito subito le tracce. Ha usato ed è passato dalla porta d'ingresso. E quei due ritardati non hanno visto niente perché era invisibile, probabilmente. Le tracce sembra che conducano alla città. Beh, anche perché uscendo dall'abbazia, esatto. Quella della città. Però sta fuggendo. le tracce. La zingara è fuggita! Conducono fuori dalla barca. Fuggita. Ok, che ore sono? Mattina, pomeriggio, sera? Dovrebbe essere ormai ora di pranzo. Ok, allora partiamo a inseguirlo. Ringraziamo l'abate e andiamo. Ma perché voi stiamo seguendo? Perché l'ultima cosa, cioè diciamo tra virgolette l'ultima cosa d'accordo era che noi tenevamo d'occhio Esmeralda. È stato l'ordine del capitano Arcos. Ci hanno detto tenete d'occhio Esmeralda. Cazzo, dov'è Esmeralda? Hanno appena detto tenete d'occhio. Esatto. Una cosa dovete fare, è facile. Infatti il mio scopo ora sarà uccidere Esmeralda. Tipo, sì, Esmeralda è sicuro. L'hai vista tu? Io no, tu l'hai vista. Beh, non mi interessa le condizioni, cioè te ne vado occhio, non significa che deve essere mio. Ringraziamo l'abate per fargli capire che siamo usciti di nostra spontanea volontà e mi raccomando, altrimenti come tu uscire. No, che non vorrei che pensi che siamo scappati anche noi all'improvviso. Se non scappa comunque di sua volontà. No, vabbè, per lui va tutto bene, non gli importa niente. Ah, gli dico, dica comunque a... Dica comunque ai due ragazzi, ai due ragazzi alla porta, ragazzi, non è la mia volontà, non è la mia volontà, perché sta fuggendo. Pare che Esmeralda sia passata di lì e loro non se ne siano accorti. Ah, ma forse non era la sua volontà. La zing- cioè, la... quella senza ragazzo. Vabbè, insomma... Ah. Vabbè, okay. Arrivederci Ignazio, andiamo. Arrivederci. Secondo me non sta bene. Arrivederci. Vabbè, questo è poverino. Devo parlarci io, andiamo, vai. Non mi avrebbe dato retta. Arrivederci, poi ti giri. E grazie. Arrivederci e andiamo. Va bene, andiamo a piedi, o vuoi trasformarti in qualcosa? Non e io c'avevo qualcosa che cavalco. Sì. Sono un nano. Divento un cane. Vabbè, sono un nano, magari. No. Ok. Vabbè, no, un cavallo. Cioè dipende quanto c'era qui alla città, se hai 10 minuti andiamo a piedi normale. No, è una zingara di merda. Devi fargli con 1000 metri. Posso diventare un cavallo nero così di sopra trovo con la zingara. Cioè, 1000 metri di slivello, quindi la strada è un po' più. Milioni. Divento un cavallo nero. Che ti ho fatto vedere prima. Cioè, se hai un paio di chilometri non importa che ti trasformi. No, quindi devi beccarla prima che arrivi. Allora, piedi andando all'incrocio dove sono loro. Devi seguire le tracce. Sono due orette e mezzo. Puoi trasformarti in animale, però devi seguire le tracce. Vabbè che seguiamo la strada. Anche tu puoi seguire le tracce. Ma lo seguono le tracce di Esmeralda. Sì, però se corriamo cavalcando no, non seguiamo. No, intanto ti fermi, individui. Cioè, così, va bene. Va bene. Si trasforma io in... Io torno in città. Ok, quindi ignori il... Veramente. Alle armi. Esattamente. Dove sta andando, signor Atanas? Ma chi è che mi dice? Rictavio. Ma lui non è andato da Irina. Aspetta, scusa. Ah, Casimir. Torno in città. Dobbiamo andare a salvare il Borgomaster. Non è un mio problema. Si è aperta la stagione degli split cut, mi dispiace. Non riuscirei mai a riunirci. Non possiamo neanche lasciarti andare da solo per le cose che ci siamo detti. Via, split lo split, split anche dei buoni, sì! Scusate, sì, che... Cosa? Sì, ma magari è se è ancora vivo. Se è morto però cioè cosa facciamo? Lo inseguiamo e poi vabbè, ma magari recuperiamo le spoglie. Vabbè, lui intende è in pericolo, magari andiamo alla delta. Se fosse morto, fortunato. Fortunello. Qui abbiamo un bravissimo, direi, esperto uccisore di borgomastri, quindi possiamo chiedere. Non l'ho ucciso io, eh. Ah, è vero. Ucciso. Beh. Io ho ucciso la moglie. Sì, non lo dire, magari io. Ma cosa gliene frega a Kevin? Chi disse una moglie questo borgo? Sì, ce l'ha. Comprenditi, Atanas, che non posso permetterti di andare da solo. Vieni pure con me? No, dobbiamo andare in quella direzione. Dove. Ma io non ci voglio andare in quella direzione. Neanch'io voglio fare molte cose che invece siamo costretti a fare, purtroppo, per le contingenze. So essere molto fastidioso. Ci credo. Sopporteremo. Scommetto che un branco di lupi manaris possono essere più fastidiosi di quanto tu lo possa mai essere. No. Non credo. Questo non lo so, ma sopporteremo. Ma tu sei lì. Come volete. Insieme. Stiamo andando a Vallakis. Vallaki. Beh, comunque non c'è nulla che dice che io non possa farlo. Certo. A cavallo dietro Casimir. Ah, no, è rituale. Magari devi fare qualcosa tipo Sì, 10 minuti dice semplicemente. Sì, ma guarda, rituale non puoi fare altre cose. Mentre lo lanci devi tenere concentrazione, devi fare farmodiare. C'è scritto due DS. Vocale, verbale, somatica. Devi fare gesti. Esatto. E quindi se il cavallo il rituale in generale devi anche usare. Vabbè, allora mentre loro discutono, visto che la cosa sta dilungando, lo faccio. Certo. Ti ho detto, evochi il tuo alce. A un certo punto io provo a incamminarmi verso la città. E Atanas, dove stai andando? La direzione è quella. Non credo. Le tracce del borgomastro andranno da quella parte. Sì, sì. Atanas, non posso lasciarti andare. Vieni con me. E io continuo a camminare. Piano, mica. No, mi stavo illudendo, aveva preso i dati. No. Ma sì, ma per forza devi finire il combattimento. Scusami, guarda. Peccato. Beh, sì, no, sei più forte che quello, fa più danni. No, per forza. Vabbè, Casimir. Segui loro. Io andrò io da solo a cercare il borgomastro. No, lui non ha detto niente di contrario. Beh, vai allora con Atanas e andiamo io e Reis a cercare il borgomastro. Va bene. D'accordo, Vardistran, facciamo se così. Se a quanto pare la follia deve perseguire. Almeno mi sta cavalcando adesso. Cioè. Vabbè, do il cavallo a Reis. Ok, va bene. Quando becchiamo Esmeralda, provo di colpo a sparire per vedere se ci gioca da terra in piedi o seduto. Magari quando sei in una fortezza, magari prova a convincere gli altri, forse saranno un po' più d'accordo. Facciamo così, cavalcate più veloci del vento. Più veloci di un alce? Non credo proprio. Potrei uccidere il cavallo. Non avevo capito, potrei uccidere il cavallo. Ho detto ok. No, il cavallo. Questo però era uno aspetto più improbabile. Quanto vi odio. Allora, cosa ho voluto io? Veramente credo l'abbia voluto Giulio. Beh, in realtà l'ha voluto Giulio, direi, fortemente. Vabbè, perché Reis non si è impuntato nel non me frega un cazzo del borgomastro, ma anche Reis non gli frega un cazzo del borgomastro. Vabbè, puoi andare anche... Vabbè, in realtà in questo momento voi aspettate la risposta di Irina, quindi che andate in città o che andate al borgomastro, voi non cambia niente in questo momento. Vabbè, Giulio vuole dar fastidio, quindi Reis e Vardistran cavalcano per inseguire il borgomastro. È più sicuro andare in città. Sì, Reis e Casimir vanno verso la città e quindi incontrano Patk e Garrosh. Dobbiamo ancora arrivarci alla città. Questa cosa è successa prima di questa. Sì, comunque noi ci mettiamo. Noi seguiamo le tracce della tipa e ci portano fuori dalla città, quindi. No, loro entrano in città, credo. No? No. Cioè, noi dall'abbazia stiamo andando verso la città. Sì, ma questo è successo stamattina. Sì. Quindi questa cosa deve ancora succedere. Ma io non so che direzione abbiamo preso. Siamo già arrivati oltre la città e tutto il resto? Sì. Ok. Quindi loro sono usciti solo un paio d'ore dopo di noi. Sì, poco tempo. Però perché la tizia. Io avevo capito che la tizia dall'abbazia era andata in città. Sì. E loro hanno seguito le tracce delle uscite. Perché tipo voleva avvisare. Ma questo tu non lo sai. Quindi seguite la strada e incrociate Atanas e Casimir che stanno tornando in città. E che ci fate qui? Ok, anche voi? Split, allora, contro split. No, adesso siete qua solo in due gruppi. Tu sei andato adesso, almeno. Ricordami una cosa, quando sei andato via ci hai detto guardate che smeralda, noi eravamo rimasti che voi andavate da loro e tornavamo. Ok, ora Catta, era meglio fare lo scontro. Io morivo perché non li hai attaccati e la campagna era vinta perché il mio personaggio comunque non li vuole attaccare. Anche i nostri vogliono attaccare. Allora come faccio a fare lo scontro? Se tipo tu li avessi attaccati, allora abbiamo seguito le tracce oltre la città, siamo fuori dalla città. Se Rictarion attaccava noi, tu saresti stato dalla parte di Rictarion così. Anche se noi non volevamo attaccare nessuno, madonna. Sai come avete detto viva Strad, andiamo a convincere di a sposare Strad. Sì, però non abbiamo detto quando sono arrivati, ci fate passare, quindi vediamo loro, lui non mi fido, però non abbiamo fatto nulla contro di voi. No, infatti io non vi attaccavo, però se Rictarion ci attaccava tu seguivi, ci attaccavo di genocida, vedevo cosa succedeva. Però c'è Atanas e Casimir, diciamo che sicuramente lui ci chiede cosa fate qui. E Kevin, il mago. te stesso. L'elfo. Comincia a variare. Beh, paradosso, vedendoti con lui, li avete trovati. Atanas, sì. Qual buon vento? No, dovrei dirlo voi, però... E però... Ah, no, io sono... Non hai lasciato... bello, Pac, bello. Hai cambiato compagno da quando hai lasciato la bazzia? No, Reis è andato con Bardistran. Ok. In tu giro. Ah, se vedo Giulio tolgo il cavallo. Mi tolgo l'animale. ero già a seguire il borgomastro. Ok, a cercare Irina sono andati? No, quello non sappiamo dove è Irina, non ce lo vogliono dire, bla bla bla. Tutto molto confuso. Ok. Sì, cioè... In tutto questo... In pratica sembra che Vardistran ha trovato il cacciatore. Ok. E non ci hanno voluto... Si è presentato come cacciatore. Sì. No, in realtà no, è vero. No. Cioè non gli hanno neanche chiesto chi è in realtà loro. No, a un certo punto... Non sei puro! A un certo punto lui ha detto che è esperto. E poi l'ha detto. Ha detto lui. Sono il cacciatore. Ha incontrato il cacciatore. No, quello che io presumo sia un cacciatore. E sappiamo che Smeralda è una cacciatrice. No, aspetta, però questo sì, sappiamo che Smeralda è la cacciatrice. E lei ha detto. Cercando il suo maestro. E lui ci ha detto: ah, Smeralda, andate ad avvertirla. Quindi, aspetta, 2 più 2 è molto facile. Sì, lui ha parlato molto. È vero, ha parlato di Smeralda. Però l'ha detto tipo alla fine. Tu non è che hai detto perché Smeralda. Ma non è la stessa. Giochiamo adesso. Vabbè. Perché devo dire perché Smeralda? Ma ci sta, io so chi è Smeralda. Quindi, se lui dice così, io immagino automaticamente che lui sia un cacciatore. È plausibile, andiamo. Cioè, sono anche. Cioè, posso fare anche un test di investigation. No, va bene. Beh, vedi un esperto cacciatore. Cosa dici quindi ai tuoi amici? Quindi? Qual era la domanda? Mi stavi dicendo, ha incontrato il cacciatore? Ah, il cacciatore e hanno nascosto Irina da qualche parte, ma non ci vogliono dire dove perché siamo corrotti, amici di strada. Ancora non si fida Vardistan, quindi. Figurati. Col dice con la foglietta viva Strato e la paglia riva. No, io no, cazzo! No, lui! Ah, ok, no, però che non si fidi! No, noi ancora no. Quel pozzo furioso! E noi quindi finché non ci ha spiegato tutto, no, poi vediamo. Quindi Ray si è accordato col cacciatore che il cacciatore tornava nel luogo dove hanno nascosto Irina per fargli la proposta che gli deve fare per conto di Strad. Nel frattempo. Quindi, cioè, siamo di nuovo tutti. Cioè, siamo tutti d'accordo ora per usare Irina come esca? No. Cosa sta succedendo? No, probabilmente appunto non succederà nulla perché Irina dirà no, il cacciatore non so neanche se in realtà dirà una cosa, però beh, sembra fidare. Ho detto che non lo so. Ho detto, ti ha dato la sua parola. E ho detto chi se ne frega. Ma scusate, non ho detto stronzo. Non abbiamo detto sin dall'inizio. Ho detto che non mi interessa. Ma non abbiamo detto sin dall'inizio che Strad sa tutto quello che succede a Irina e attorno a Irina. Quindi perché non dovrebbe succedere adesso? Il cacciatore ha un luogo strano. Di fatto Strad non sapeva dove era il cacciatore. Credo sia in una zona antimagia. Un sottile metagame. Quindi immagino che il cacciatore abbia un luogo sicuro. Ok. Tipo la battaglia. Cioè, tipo, ho capito cosa è. Tipo la battaglia. Non esattamente, però va bene. No, ho capito, ok. Sì, altrimenti non l'avrebbe. Soprattutto Vardistran non l'avrebbe. Solo che lì il cacciatore ha notato le tracce dei cavalli del. Ha chiesto le cose, Reis gli ha detto che era il borgomastro, ha detto ah no, dovete salvare il borgomastro. Ma sbatte il cazzo. Ma il borgomastro dov'è? Perché è andato via? Ah, giusto. Cioè il borgomastro ovviamente non di Vallachi, perché qualcosa mi dice che non può essere no, lui. No, il borgomastro di come si chiama? Di Crezco. Un unico padrone. E non è a Crezco. Dovevamo seguire in qualche modo Irina e... E Vardistran. Ma il bargomastro è andato, ho mandato quei guerrieri, è andato proprio anche, lui. Cioè, quindi avete usato come... Sì, non ho ben capito come abbia fatto Reis. No, va bene. Però... questo degenerato il bargomastro per i due stronzi di convagli d'albi, va? Ci sono i cacciatori di vampiri. Okay. Ci sono i cacciatori di vampiri, cacciatori di taglie, cacciatori di borgomastro, ognuno ha la sua preda preferita. Oh, quindi comunque c'è un vuoto di potere in città. Volendo, io la butto lì. Io la butto lì. Ok, quindi ora un'altra pista. Voi dove state andando? Loro dal borgomastro. Io tornavo in città perché mi frega un cazzo del borgomastro. E tu? Kevin. Ah, lui mi segue perché non si fida. Tenerlo, no. Ah, sì. Cioè gli ha detto Varri, se non immagino perché non si fida. Sì, beh, anche lui non credo che non si fida. Ok, perché lui è... perché non fidarsi? Ragazzi, lui adesso immagino vi abbiano raccontato che hanno consegnato a Strahd un loro pegno, un oggetto personale. Questo da... aumenta le possibilità che Strahd riesca a... Io sto rollando perché sono il cavallo e rotta quel cavallo. Divinare la loro posizione. Ah, quindi sai esattamente dove sono e cosa fanno. Non è detto, però è più facile avendo un contatto, un oggetto personale del okay. bersaglio della divinazione. Tipo è più facile localizzare oggetto. Scrutare. Quindi ora, se esiste, qual è il piano? Andiamo in città, aspettiamo. Quindi ora dovremmo aspettare. No, però Casimir, io ho detto la roba. Per piacere, Kat. Cosa hai detto, Casimir? Di provare a convincere loro. Ah, sì, no. Adesso la priorità è salvare la vita al borgomastro che è andato nella. Se volete. Terra selvagge. Dritti al bivio verso Vallachi. Non potete sbagliare. Ok. E solo per qualche motivo che non ho ben capito, Atanas si è rifiutato di venire con noi. Questo ci ha obbligato a dividerci. Questo okay. ha permesso agli altri due di andare più veloci, quindi probabilmente riusciranno a raggiungere. Ma scusa un attimo, Salla che quei ragazzi insieme. Io e Renzi siamo andati a cercare il borgo. Ora, i due basta. In tutto questo, per puro caso, non è che avete incrociato una donna. Anche io sono perplesso su questa cosa. Quale cosa? Che noi stiamo inseguendo per aiutare il borgomastro con dei soldati e siamo due stronzi, però vabbè. Beh, siete i protagonisti, non sei più. Sì, dimmi. No, ecco, avete visto una donna senza. Quindi io una cosa ti avevo chiesto di fare e una cosa non sei riuscito a fare. Ti sei subito sputtanato davanti al tuo padrone. No, faccio il serio. Per caso avete visto Esmeralda? È fuggita anche lei dalla. Non è l'abbazia, non è più l'abbazia. Appena siete andati via, l'abbiamo cercata ed era sparita. Ma svanita letteralmente perché abbiamo seguito. Per caso l'abate sa qualcosa? No. Cazzo. L'abate non ha esattamente neanche capito cosa gli abbiamo detto. No, è che lui stava facendo quel segugio. Pare che sia uscito anche lui dalla città. Ma quindi chi arriva? Era l'abate che non capiva un cazzo di quello che diceva. No, faceva. Ah, sì, hai fatto il seguito. Io parlavo anche all'abate, ho chiesto se l'aveva vista. L'abate ha detto no, l'ho vista, non so dove sia andata. Vabbè, comunque abbiamo seguito le tracce, abbiamo capito che è uscita dalla porta principale e nessuno l'ha vista. Questo è molto strano. E le sue tracce continuano a portare in questa direzione, quindi noi le stavamo seguendo. Non per dire, padrone. Non c'è più problema. Se non lo avvizza nessuno, abbiamo deciso di prendere tutto il vantaggio che abbiamo ottenuto diventando un cavallo, stando qua per diversi parlando. Vabbè, non importa più che sappiamo dov'è Esmeralda. Beh, tornerà aspetta, in città. Però avete visto il cacciatore, avete detto. Sì. Lui sa si dove si rincontreranno. Che cazzo ne so? Cosa me ne frega ormai? Ok. Che cazzo facciamo noi? Torniamo in città? No, andiamo ad aiutare in teoria perché no, aspetta. Se il borgomastro è in pericolo con l'esercito e ci vanno anche gli altri due ma stronzi non possiamo... dopo aspetta. Sono in pericolo il borgomastro e i due stronzi. No, scusami, ovviamente, non possiamo andare a cercare Irina anche noi? Non credo che ci sia una questione, cioè no, c'è una questione di fiducia. Ma pare che nessuno si stia fidando di nessuno, ti hanno portato uno scagnozzo. Appunto, dietro. Non... Casimir ti guarda un po' storto dopo che hai chiamato scagnozzo. Cioè... Però, abbiamo visto la direzione in cui venivano al bivio, però proseguire in quella direzione porterebbe uno scontro e quindi non possiamo andare da quella strada. Beh, allora scusami, torniamo al bivio e aspettiamo che tornino e poi... Ma sì, aspettiamo in mezzo alla foresta, cosa vuoi che succeda? Vabbè, l'accordo è di incontrarsi col cacciatore in città. Esatto. Ah, dovete... Ah, allora andiamo in città. Cioè, io spero che non torni. Però Esmeralda perché dovrebbe essere secondo te fuggita? In teoria non doveva aspettare. È una zinga, non c'è stato il no, lavoro. Scusa, cioè. Lei ci aveva detto che stava lì per aspettare Strahd che dovrebbe arrivare domani, se non dopodomani ormai. Dopodomani arriva Strahd all'abbazia e lei sì, ha detto esatto. che lo aspettava lì per ucciderla. Magari sono cambiati i piani, magari si è accorta che gli mancava qualcosa che doveva recuperarlo, magari invece sa perfettamente dove era andato Vardistran e l'ha seguito. Non vorrei fare il troppo paranoico, ma siamo sicuri che il cacciatore non possa contattare Esmeralda in qualche modo. Sarà contatta sti cazzi. E se il cacciatore... lo so, però... Non che sia la mia priorità. Scusa, però, Kevin. Tecnicamente adesso l'ago della bilancia è Irina. No, niente, scusa per l'attesa. Tecnicamente l'ago della bilancia è Irina. Voi mi state dicendo che il cacciatore sta andando da solo. Tu mi stai dicendo che il cacciatore sta andando da solo da Irina ed è scappata l'unica alleata del cacciatore. Se il cacciatore fosse con Strad, perché ci stiamo fidando del cacciatore? Chi lo conosce? Il cacciatore io non l'ho mai incontrato il cacciatore. Basta, un posso... non ci dà qualcuno. Beh, abbiamo visto tutti che il cacciatore che Strad cerca di usare tutti. Tu hai mai visto il cacciatore? Cosa? L'hai mai visto uccidere un vampiro? Diciamo, abbiamo sentito solo il nome, può essere un contastorie. Allora metti in dubbio qualsiasi cosa che ti... Metto in dubbio una persona che non ho mai conosciuto, che loro hanno lasciato andare da sola, da solo da Irene. Mi impenno. È la stessa cosa di quando lui si è fidato di Esmeralda e non di noi. Ma hanno lasciato andare uno per me. Strano, si fida. Non c'è andato da solo. Ah, c'è andato col famiglio di Reyes. Ah. Ok, però sì, per me è punto a capo. Che a quanto pare non può entrare comunque nel luogo dove sta. Vabbè, a questo punto però che c'è un campo di magia non è un altro 2 più 2 facile, perché ci ha detto che non può entrare. Ne sai tu di campi di magia? No, ok, io no. Però... devo fare una chiamata. Monte strano. Però, cioè, se ci dice che il famiglio scompare, io magari no. Però... quindi tu mi dici che possiamo fidarci del cacciatore? No, infatti non dico campo di magia. Secondo te ci possiamo fidare del cacciatore? Che cazzo ne so, Vardy Strand si fida. E cosa cazzo me ne frega? Se Vardy, se il cacciatore... ah, ci può andare lo stesso, infatti, se prende Irina va. Questo è, non lo dico. Forza, sta. Ok, beh, allora sì. Quindi ragazzi, che cosa vogliamo fare? Andiamo ad aiutare il borgomastro? Vuoi provare a continuare a cercare Smeralda? Da questo che è venuto fuori adesso andiamo o da Borgomastro e spediamo in città. Però secondo me se dobbiamo andare a cercare il Borgomastro a sto punto e a salvare anche, eventualmente aiutare Salla e Vezza, senso che andiamo tutti e quattro. Non che Giulio e questo stronzo che sono io. Però città, aspetta, però, io però qualcuno deve qualcuno da quello che ci hanno raccontato deve restare in città per aspettare. Ma abbiamo già ore di ritardo, è inutile andare. Hanno detto che col cacciatore sono d'accordo che si ritrovano in città. Quindi qualcuno deve stare in città. Se il cacciatore torna indietro fa 3 ore, noi magari siamo andati a morire. Quindi aspetterà, non è che dove deve andare. Diciamo così: da roleplay piuttosto che stare in città a guardare il muro. Se penso, ipotizzo che loro possono essere in pericolo, il borgomastro in pericolo. Sì, certo. Aiutare Vez anche lui. Splittati anche tu. guarda Patka, abbiamo ore di ritardo. A questo facciamo ora... così. Io ho un'idea. Facciamo così: Giulio va in città con Casimir, che lo segue. Tu vai a cercare Smeralda e tu vieni a cercare loro. Splittiamo in quattro. No, facciamo così. Perché non è niente da solo a correre finché, una festa come ritardato. Finché la direzione di Smeralda e il borgomastro è la stessa, continuiamo. Se ci sarà un bivio ci pensiamo sul momento, dai. Intanto andiamo c'è un bivio poco più no, grande. Un bivio delle tracce. Perché magari Smeralda... Ma scusate, voi seguite Smeralda perché? Perché c'è lei. Esatto, vi sto dicendo che non serve. Io padrone. No, aspetta, a parte le battute, non l'avrei detto, no. Io padrone, mi no, adesso scusami, Aglio rispira e voglio dire uno zuccherino. No, scusami, no, perché me l'hai detto tu. Però adesso scusami. No, perché non sta facendo quello che dovevo fare. Certo. A me cioè, lui è scappato. No, se volete andare. No, non è che voglio trovare Smeralda, però il dubbio mi viene. Che cazzo è scappato a fare? Ma è Giulio che deve seguire. Le zingare scappano per le prendere. Ma dai, seriamente, Giulio, seriamente. Lei dice, io sto qui perché voglio aspettare e uccidere Strad. Guarda caso loro portano il cacciatore da Irina e questa scappa invisibile. Ma lei non sa dov'è il cacciatore. Perché te l'ha detto? Che ne sai? Perché anche il cacciatore non sapeva che Smeralda era in città. Perché te l'ha detto? A te ti fidi del primo che trovi, peggio di lui. No. A quanto pare ha sbagliato a fidarmi di lui. Se il cacciatore ha perculato tutti voi. Garrosh, partiamo da una cosa fondamentale. Non me ne frega un cazzo. Se Strad non è Strad. Sei il braccio. Non te ne frega niente, però se in realtà... il cacciatore non è chi dice di essere. Poi io non mi fido del cacciatore così. Vabbè, ma il cacciatore chi potrebbe essere? Sentiamo. Beh, è vero, però tu se sei dalla parte di Strad, in realtà dovresti essere. Magari il cacciatore tipo Strad fa Mrs. Doubtfire, ti cambia loro. Ma se il cacciatore è Strad, ci risolve un sacco di problemi. Va da Irina, sa perfettamente dove è Irina. Se il cacciatore magari è Irina. Spiegagli bene la cosa, cioè, nel senso, Giulio è lì perché, vabbè, non ci sono, però Cioè, ti faccio il riassunto di quello che sa il mio personaggio. Lago della Bilancia era Irina. Lago della Bilancia era Irina. Io lo rincontro e mi dice: ah, il cacciatore, boh, credo sia il cacciatore, l'abbiamo appena visto, sta andando da solo da Irina. Vabbè, perché io ti ho detto che non ci possiamo andare noi da Irina, perché sennò ci scontriamo, ci ammazziamo vicino. Col cacciatore che ti ha detto: no, vado da solo da Irina, non seguirmi. No, cioè, prima ci volevano andare lui e un altro, ma Vezzo non si fidava a mandare solo Kevin o solo o venire solo lui con me. Tu in questo momento era andare da solo con voi. Tu esatto. In questo momento ti fidi di Vardistran? Boh, secondo me è uscito un po' di melone. Quindi no, però ti stai fidando di uno di cui si fida Vardistran. Non mi fido, non me ne frega un cazzo di quello che succede. Mi sta andando, ci sta dando l'idea. Sto andando in città. Perché voglio andare in città? Sì, è facile. E ti ordino di andare. Però non è normale. Cosa posso fare? Ordina di andare via. Allora, se vado a inseguire il cacciatore Irina, finiamo che c'è lo scontro. E poi Varistra non vuole, per carità, non si faccia mai quello che Varistra non vuole. Allora andiamo dal Borgomastro. Non mi interessa andare dal Borgomastro, andiamo verso Ballachis, verso la morte. Cioè, vuoi andare? Io non ti impedisco, però io non ci vengo. Io so se proprio fare qualcosa adesso dal Borgomastro. Te l'ho detto, se guardiamo. Allora, andiamo verso la città, cioè dove. Voi volete andare a Borgomastro, arrivate a Livio, così, ma da cavallo. Arrivate a Livio, andate verso Ballachi. Va bene, lo facciamo. Nel frattempo, perché no, continuiamo a seguire le tracce di Esmeralda. Magari lungo il percorso ci capita di buona, buona pace a sta zinga. Pare che sembri il tenente Cazzo, no, gli ho dato un ordine. Adesso che è quello. Pare che sulla statale per Ballachi ci sia anche un McDrive. Se vuoi fermarti, allora. Non mi fido. Vabbè, andiamo. Seguite le tracce. Ma come non ti fidi? Io eri tu il cacciatore, non ti ricordi? Io sono il cavallo e lui segue le tracce. Ma maggior ragione. Non è che non mi fidi, perché non l'ho mai visto. Garrosh, segui le tracce. Ormai tutti sospettano di tutti, è fantastico. Seguivo le tracce. Ma io non ho capito. È diventata una mia avventura. Ho visto un cavallo. Garrosh, io non ho capito di cosa non ti fidi. Di una persona che non ho mai visto. Ok, ma qual è il problema? Che sta andando da solo da Irina. Sì, non capisco comunque qual è il problema. Se la uccide? È che sono cazzi suoi. No, sono cazzi nostri, perché Strahd si incazza con voi, quindi anche no, con noi. No, Strahd si incazza con chi ammazza Irina. Cioè, ho capito, però se mi hai detto, mi hai detto che Strahd ti ha detto, okay, vai a convincere, vai ma su che base tu stai ipotizzando che sto cacciatore voglia uccidere Irina? Perché non vuole, perché non vuole che Strahd sia libero e di conseguenza lo scusa, l'avrebbe uccisa quando Vez gliel'ha portata, gliel'ha consegnata, quando Varstrand gliel'ha consegnata. Magari aveva paura di lui. E poi aveva paura di Irina. Beh sì, bravo, esatto, sì. Vietz non si fida dei PNG appena conosciuti di solito. Comunque sì, nulla ti ha detto che l'obiettivo del cacciatore è che Strahd rimanga maledetto. Beh, non vuole che sia liberato, però, in teoria. Lo vuole ucciderlo. Eh. Vabbè, è un'altra cosa. Magari usa Irina come esca, però. È già un'altra cosa. Riesci anche queste cose di seguire questa zingara che fugge anche di razzista. Detto, a un certo punto dico una frase in celestiale che però per voi è incomprensibile, perché nessuno è contro la celestiale. E per Giulio cosa significa? E per me significa: getta la tua falce e mieti, è giunta l'ora di mietere, perché l'ha messo della terrematura. Sì, benissimo. Vabbè, comunque andiamo verso la città. Tanto non la capisci. Non dovete andare a rincorrere le tracce di. Sì, ho detto. Qualcuno di voi parla il celestiale. Continuiamo la direzione verso finché Ballassi, verso Ballassi. Finché Borgomastro e Esmeralda coincidono. Le tracce di Esmeralda vengono coperte da quelle dei cavalli del Borgomastro e dei suoi. Però l'ultima direzione era sempre la stessa. Quindi andiamo verso Ballassi. Quindi seguite le tracce del Borgomastro. Cosa? È uscita prima del Borgomastro? No, è uscita dopo. È uscita il poco dopo. Ah, ok. E non essendo stupida. Cioè, sarà uscita seguendo noi? Sì, subito dopo che siete usciti voi, uscita lei. Mentre il giudice ha di tenere d'occhio, la dieta è invisibile. Vabbè, sì. Ora dov'è? Praticamente sì. Ma la domanda è perché gli interessi? Vabbè, non ci interessa. Ma secondo me ha più il gusto di dare un ordine a Shea. No, all'epoca mi interessava, adesso non mi interessa. La sua missione è uccidere Strahd. Noi sappiamo che Strahd va lì. Se lei va via da lì, vuol dire che lei sa che Strahd non va più lì. Dovrei capire dove va Strahd. Mi ha un pochino dove andare. Esatto, Strahd, vediamo di fare l'ultima scena. L'ultima scena sono Vardistran e Reis che stanno cavalcando all'impazzata per andare a salvare il Borgomastro come i bravi eroi. Non buoni. Cavalcando, alciando. Allora, sei già morto una volta, perché gli hai dato questo nome? Si chiama, è sempre lo stesso. Sì. Per spronare al massimo le vostre cavalcature, fatemi un animal handling. Ancora? No, io vado piano. Ma come vai chiaro? Perché sai che tirerebbe un 1, bravo, sai. 9. Sara, tu puoi hai il potere di tirare 20. Però posso fare... Ho fatto aggiungere un dito. E scendi a spingere. Ho dei colpi potenti. Non vedo con l'ascia. Ti ridammi se vuoi, però se l'ammazzi... Ho il frustino io. No, no, il frustino. Hai la... Oh, però mi ascolti, eh. Il frusto, dai. No, è più di un animale. Naturale. È più di un animale, hai ragione. Tu, però solo due, accetti un martello da guerra. In collegamento telepatico. Capisci la... Quindi si ammazza, fammi una prova di costituzione con... No, io l'animal handling lo faccio per il suo cavallo. Sì, va bene. Che un nano. Posso tirare? Tiratemi e tiratemi costituzione per le vostre cavalcature. Ma... per vedere se... Vabbè, lui per se stesso. Ma voi andate normalmente, sono loro che... No, stiamo andando a merda anche noi per recuperarli. C'è Scio che mi sta prendendo la marcia. Sembravate le persone più tranquille del mondo. Cioè, eravate lì che discorsate, ma mi fido. No, ho fatto il cavallo apposta per andare veloce. Ma storici. Lui si è fermato a parlare 20 minuti con lui. Ho capito. Cosa fai? Oh, ciao Giulio, stiamo correndo. La costituzione del tuo cavallo. Quanto ha di più il mio cavallo? Il tuo cavallo avrà più 2. Beh, ti cavallo c'era. Tira un di 20. Spero che abbia un cambio. Tira, quanto hai fatto? 5. No, allora. Mi sa che ha un più 3, un più 2. No, un più 2. Di solo in chioda. Vabbè, lo porto su. Cavallo. Cavallo baracca. Era uno dei vostri, oh, che sta dall'altro. Sì, è vero. Come si scrive cavallo? Con l'H. Con l'H, non c'è l'H. Ma sarà tra... Avrà sì, sì, sto cercando. Avrà un altro nome, tipo cavallo da guerra, presente, War Horse. E quello è il War Horse, ma è un cavallo normale. Allora è Normal War, Normal Horse. Normal Horse, con la N. Sei veramente... Vabbè, così. Avrà un... Quanto è il cavallo da guerra? Ma ci sarà anche qua, dai. Scusa, questi cosa sono? No, no, niente. War Horse, non è War Horse però. No. Vabbè, quanto ha il War Horse? War Horse ha così... Riding Horse, siano maledetti. Cavallo che ride. Settima, ho più uno di questi. È vero, è più uno. Ha sempre più uno. Quanto ha? 6, va bene. Ha più uno. Madonna, povero cavallino di Race comincia ad essere sempre più stanco e rallentare. Rallenti per stare al passo o vai di gran carriera? No, non lo lascio indietro, però... Strano, che ironia. Prima voleva ammazzarlo e adesso non lo lascia indietro. No, ma non lo lascia indietro perché non si fida. No, dico... Sembra che il tuo cavallo, il tuo destrero sia stanco, Race, monta su... Ma è mio, è uno dei vostri. Vabbè. Uno dei nostri destrieri sembra che sia stanco. Perdonami la forma. Monta sul uno delle mie alci. Così che possa venire con noi e riposare un po' di più, perché se non ha la cavalcatura sopra, in teoria dovrebbe andare più veloce. Quindi andate in due sull'alce. No, la cavalcatura lui salta sopra e io lo invito a... Ma salta da cavallo ad alce al volo come Proboirina. Ma in realtà lui sarebbe in grado di farlo, sì. Però se vuole ci fermiamo. Va bene, quindi adesso fammi l'alce che vi porta entrambi. Uno. Hai un inspiration? 14 di nuovo. 14. Va bene. Constitution, vero? Sì. Non so più, ma... Sono più sì. Non è l'arcio gigante, l'arcio normale. Solo che c'è questa cosa figa. Ok, percezione passiva. 10. Dell'arcio. Mio, 10. Hai solo 10. Ma no, è mio, non hai saggezza, te. Come paladino non hai saggezza. No, carisma. No, basta, non hai saggezza. Carisma. Vedi come cazzo si sta comportando da diverse sessioni, ti pare un osaggio, andiamo. Tanto ho messo su una compagnia. Non stava per dire, non stava per dire anche il master. Sono intanto. Non stava per dire anche lui. Ho messo su una compagnia della Madonna. Hai avuto solo il culo che hai trovato il cacciatore perché Kevin ti ha detto... Intanto i tuoi ex compagni sono riusciti a spittarti anche il nuovo parte. Oh, ho capito. Voi nel senso, mi piace vincere facile, chi è più forte del reale. Splittiamoli anche no, nel no. senso benissimo è che il mio è buono, non lo può fare, quindi altrimenti ok, però il mio non lo può fare, quindi io devo giocare. Race, percezione passiva 12. Cioè il mio non è che può dire viva strano. Me la chiede. Il vostro sì, il mio no, perché non sei lì, però vedo lo stesso. Fantato, 16. Grazie. Se ve ammazzate, dopo faccio strada junior e allora siamo a posto. Allora, così, così arriverà sì. Varricchio. Infatti, io peraltro sono scontro, così Bolivar a posto. Ok, no, che divertente, che divertente. Fai Strad Junior, il figlio di Irina e Strad, perfetto. Strad Junior sarà il bastardo di Strad, figlio bastardo di Strad. Credeva di essere. Sì, ma lo sarà. Arrivo subito. Questa è la strada fog, abbiamo deciso. Sentite il rumore di una colluttazione più avanti. E ben presto arrivate sul luogo. Così, della... C'è Smeralda che picchia il borgomastro. Sul luogo questo... dello scontro. No, Smeralda arriverà dopo. Per terra ci sono i cadaveri di tre cavalli. È passato l'Anatos. Guarda, Reis, alcuni dei nostri cavalli. No, non sono i vostri cavalli. Reis, se abbatti il borgomastro, abbiamo un'altra città. Pensaci. Però c'è l'abate con un esercito di mostri che non so. Ma l'abate è mio amico. Questi cavalli ci sono tre guardie che stanno combattendo contro delle queste grosse figure pelose e con grosse fauci aguzze che potete riconoscere in quanto lupi mannari. Però io se il argento gli faccio un cazzo. Esatto. Che ha l'unica spada d'argento della compagnia. Che ironia, chi ha due pollici? Aspetta, no, ce n'è un altro. Ah, ma sta andando da Irina. No, il borgomastro è ancora vivo. No, no, è morto in battaglia. Vabbè, morto. Basta prenderlo e salvarlo, bisogna combattere. Vabbè, l'ho già fatto un'altra volta. Dovevi dire sul suo cosa. Cavallo, che con il terrore negli occhi sta... cercando di allontanare una lupo mannaro che si sta cercando di fare uno spuntino con l'equino e cerca di disingaggiarlo per scappare. E vede, vi vede arrivare e sono riusciti ad evitare la linea anche stavolta comunque. Esatto, basta. Comunque rega, per me voi è un aiutatemi! Non lascerei soffrire così. In quel momento vedete un altro lupo mannaro che da un albero salta verso di lui e lo disarcione. No, è finita, ragazzi. Scappate, mettetevi in salvo almeno voi. Abbattetelo, dai, sta soffrendo. E quindi iniziate la prossima volta, inizieremo questo scontro. Ma raga, questo qua è un déjà vu. Vabbè, però questa è una scena. Evoco delle capre, scene. Degli animali da cavalcare. Quali sono le altre? Che ne so. Io credo in città che fai un cazzo. Ok. Solo che lupo mannaro è un casino. Voi e Kevin arrivate in città. Ti ricordi la nostra fuga? Non c'è nessuno che sta giganti, guardando il cancello perché vedete il figlio del borgomastro che ha preso un poveretto magari arriviamo così l'ha messo alla gogna, lo sta scondisciando. Però aspetta, perché io so già cosa fare alla prossima puntata. Bella. E lì dove siamo? Però non ho usato il mio correndo, devo andare verso le tracce. Per ora sono sempre sia del borgomastro. Sai che c'ho sta fissazione ormai? Che è di Esmeralda? No, quelle di Esmeralda sono perse. Ah, è vero, perse sotto le altre ragioni. Quindi seguiamo quelle della carovana. Bene. La messa è finita. E ci vedremo alla prossima. Tu quando parti, vero? Sessione. Io parto venerdì. Non questo prossimo. Però lunedì mi piacerebbe fare un campetto in realtà. Quindi. O facciamo tipo martedì 18 il 18. È vero che non c'è l'ASA, è tutto. Tanto l'ASA è andato. Anche gli allenamenti li hai finiti. Sì, cioè in realtà un martedì o io mercoledì non so, però uno dei due. Rimaniamo per il 18 e il 19, quindi. Così a occhio direi di sì. Ah, per sarebbe top. Tu martedì o mercoledì? Io se non lo aggiungo sotto faccio fatica. Però se dite il giorno scrivete lì. Sei Ema. Ema, regà. Ema? Bentornato Ema. Bentornato, ma lui martedì. Oppure martedì e mercoledì prima che tu le notte. No, vabbè, basta. Sarebbe figo. Bene, grazie per averci seguito. Ai prossimi episodi con Tycoons and Dragons. E la maledizione di Chiatta. E una buona notte e buon split a tutti voi. Vorrei ricordarvi che il mio salotto la cazzo di vigna È stata tipo una delle prime cose di cui avete sentito. E di chi è la colpa? Vostra. Di chi è la colpa? Non sai perché non siamo andati, non ce l'hai descritta. Se cominciavi a descrivercela ci mettevi voglia e ci andavamo. No, ok, quando... la roba delle piume d'oca l'hai tirata fuori. La prima cosa che avete fatto quando avete iniziato questa campagna, qual è stata? Andare al castello. Uccidere i cavalli. Andare al castello. Lettura dei tarocchi. Che cosa vi hanno detto? Ma non si è capito mai niente. Chissà quella perché. Roba, dai. Se non vi ricordate neanche che cosa mi ha detto. No, cioè, ci ha detto fin dall'inizio che il nostro alleato migliore è la strada e tutto si sta confermando. Vicino alla via. È vero che l'alleato è il maligno. Esatto. Quindi fino adesso. Perché non avevamo alleati. Che non avevate alleati, va bene, a parte quello. Infatti, vedi che il cacciatore non è il nostro alleato. Nei tarocchi, sapienza antica aiuterà a conoscere il mercenario. Quello che cerchiamo giace tra i morti sotto montagne di monete d'oro. Questa era la seconda lettura. Ma avete fatto una prima. La prima non lo so, commerciante, traditore, prete, bestia e broken one, non mi ricordo. La prima tu non c'eri, ma quelli che c'erano si ricordano. I significati non me li ero scritti. Questo spiega molte cose. Vabbè, non si neanche niente quello che... La prima lettura. Magari salivamo di livello. Mentre scopri cose, fai dei collegamenti. Doveva essere una one shot. Sì, quindi era solo tempo perso. Raga. Comunque vi diceva che la carta... Ci siamo. L'ultima cosa che... Da voi che vedo sudare maestro. Sì, caldo fa caldo. Vi diceva questa carta racconta... di merda che... Allora, racconta di una storia. Non so chi dei due la conoscenza dell'antico vi aiuterà a capire meglio il vostro nemico. Ma guardate per il mago delle vigne, il trader. Che non tira un cazzo d'aria qua. Guardate per il mago delle vigne, tra il legno e la sabbia, il tesoro si nasconde. Vabbè, ma ci sta che noi ce ne siamo sbattuti il cazzo. Però i vostri personaggi, sentendo quel nome, potrebbero dire, magari riusciamo a prendere un piccione. Ci sta molto che il mio personaggio se ne sbatte del cazzo. Allora, vedi, Katta, a maggior ragione, è colpa tua. E non ve l'ho ricordato. È perché il master è anche coscienza dei giocatori, quindi è tutta colpa tua. Sì, ma più di proprio lanciarvi in boccature... No, perché tu chi sei, Ema? Il fatto di parlarci della vigna e di cominciare a andare là lo fa ogni 10 minuti. Questo gliene va dato atto. Ma sto discorsino qua lo poteva fare la prima volta. Tu incontri un mendicante che fa l'elemosina lungo la strada e dice andate alla vigna, un soldino, andate alla vigna. Cioè, tipo così, tutti i PNG dicono, beh, il vino, la vigna... Sì, ascolta, però di solito la cosa era tipo... Ma quindi qua il borgomastro non c'è il vino. Era effettivamente in realtà secondo me non sarebbe cambiato molto, perché alla fine noi potevamo andare alla vigna quando abbiamo portato la bambina al suo accampamento. All'inizio magari faceva poca differenza, ma lì abbiamo scoperto anche che Irina era stata rapita dal tizio ed è per quello che non siamo andati alla vigna, perché qualcuno voleva andare a salvare Irina e quindi abbiamo saltato a casa del borgomastro e abbiamo ucciso il borgomastro. Sì, è vero, c'era il discorso se andare prima a salvare Irina o se andare alla vigna e abbiamo conquistato la città. E da quel punto in realtà le cose sono state tutte molto veloci, quindi... Vabbè, raga, non dobbiamo tediare i nostri telespettatori con la storia della vita della campagna, quindi buonanotte. Per quale motivo? E buone bonus. Quindi scrivimi il giorno che poi controllo. Martedì.